Liberami, padre, di ogni bontà. Dalla medianità degli zingari. Liberami, padre, di ogni bontà. Dal vizio della droga. Dal vizio del bere i liquori forti. Liberami, padre, di ogni bontà. Dalle ossessioni omosessuali. Dalle ossessioni gay. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sei pronto? Sì, è pronto, falegname? Sì. Sì, può venire a casa mia, c'è mia moglie se vuole buttare dalla finestra. E mica deve chiamare a me per... deve chiamare la polizia. No, no, deve venire lei perché la finestra non si apre. Cruciani, io ti amo! Ciao Giuseppe, mi raccomando, sono stanco Giuseppe, sii clemente, sii clemente. Domanda a Carlo Freccero, ti fidi delle multinazionali Carlo, ti fidi? No, no, no, no. Non c'ha detto? No! Porca puttana. Signora, quanti anni ha lei esattamente? 47. Ma lei squirta, signora? Sì, è tanto. Ma infatti, le sembra il caso di telefonare in una radio nazionale sì, autorevole perché, come questa? Ma la fai parlare? La fai parlare? Sì, per carità. Dimmi. Dottore, allora, tanto uscito con Tronchetti, Plovela. Ma lei ha fatto uno studio su questo, cosa dice stasera? Da morire. Io ci ho messo anni a capire. Ma lei quanto squirta? Tantissimo? Che domanda è? Mica è report questo? Devo asciugare la camera. Addirittura? Quando... deve asciugare la camera? Esatto. E poi non dite che i rapporti anali, tutte quelle stupidaggini che dite, è una cosa fantastica, è bellissimo. Cioè la signora De Mari ha torto, cioè non c'è nessun trauma rettale. Nessun trauma, nessun trauma. Un godimento straordinario. Lei squirta, signora? Da morire, da morire. Davide, ti leggo subito una notizia che viene, da Jesolo. Che viene Eccoci da Jesolo. Qua. Beh, la signora Anna di ieri mi ha fatto emozionare, devo dire la verità. Ho visto. La squirtatrice. Ha meritato l'editoriale di apertura, la signora, diciamo. L'editoriale. La squirtatrice seriale. La squirtatrice seriale. Ti ha dato, devo dire, una lezione, caro Parenzo. Una lezione, come dire, se vuoi anche di bon ton. Una lezione di classe, perché parlava. Ma inquietava anche la voce. Sì, era, è vero, quasi... era una voce inquietante. Sì, una voce inquietante. Sì, una voce inquietante. Mezza arrapata. Ma non ti vorresti trovare con lei in una stanza sola? Dottore, con dottore Malagò. Ola, non può parlare. Dottore Malagò, parlano di coni, mangiano e bevono mangiano taltine, non parla quilting. Dottore e con dottore Malagò, non può parlare. Io ti ci farei trovare da solo nella stessa stanza con la ancora, signora squirtatrice, amico mio. Sarebbe il top assoluto. Allora, una notizia che viene da Jesolo, dicevo, una notizia che viene da Jesolo. Un signore tabaccaio è stato aggredito da 5 turisti israeliani, che hanno detto: non puoi avere questi accendini con le immagini di Hitler e Mussolini. Sai com'è? Tu dici: sai com'è? Se tu mi strappassi ora o volessi per caso che io facessi una condanna vibrante contro l'aggressione subita dal tabaccaio. Pronto? Sì, sì. Non va via la lì. Pronto? Sì, ti sento. Per fare la condanna. Va via la linea, non so perché. Cioè, non si riesce a. Si interrompe, si chiude l'audio. Pronto? Vedi che si chiude? Cioè, la parola si chiude. Allora, questi urlavano che quegli accendini rappresentano un'offesa per il popolo israeliano. Beh, li hanno schiacciati, presi a calci, imprecando più non posso. Parli di oggetti, eh? Oggetti. Accendini con. Con il volto di appunto. Hitler e di Mussolini, gusto. Diciamo subito cattivo gusto. Chi ma li che vende? Cattivo gusto, ma per non si possono lire, manco vendere due accendini con l'immagine Beh, di sì, Hitler. Purtroppo dai. Si possono. su, ma che sarà mai? Vogliamo che ne so, mobilitare la finanza? Vogliamo mobilitare il tuo amico Fiano, il deputato Fiano? Vogliamo mobilitare i poliziotti, le possiamo procure? Dire, no, possiamo dai, dire che è di cattivo gusto vendere degli accendini con l'effigie di Hitler? Ma che cattivo visto che gusto, c'è il tema dai. Del fuoco, bruciare gli ebrei, accendino, eccetera. Possiamo dire che no, fa non è schifo? Di cattivo, no, non, fa schifo. Arrivo, non fa schifo. No, non fa schifo, non fa schifo. Ti piace. Vabbè, non fa schifo. Perfetto, ottimo. Si vendono pure scusa, si vendono pure quelli di Stalin. Si vendono vabbè, quelli di Che Guevara. Ma che c'entra Che Guevara con Hitler? Cosa dici? Ma come fai con cosa fai un convegno storico? Cosa fai un congresso storico? Chi sei, ma Paolo Mieli? Ma cosa c'entra? Cosa apri un convegno di storici con De Felice? Che dici? Ti voglio segnalare. Vuoi fare un convegno storico sul ruolo di Che Guevara e Hitler partendo da degli accendini, da dei fottuti accendini che vende un allora, signore di Esolo. Hanno fatto bene a calpestarli. Pronto? Questi accendini. Hanno fatto. Ma via la linea però. Ci tiene allora, che va via la linea. Non allora, riesco a condannare. Un ascoltatore mi ha mandato giustamente una scheda su quante persone sono state uccise dai dittatori. Ti faccio presente che nella classifica i primi due sono Mao ha ucciso 78 milioni di persone. E te benedetti! E benedetti! Ma ci guarda, non è esattamente. E benedetti! Rothschild! Ma dici guarda, però, francamente. Mao 78 milioni, Stalin 23 milioni, Stalin 23 milioni. Abbiamo capito. Poi c'è Adolfetto 17 milioni, sì. Signor Hitler. Beh, 17 milioni. Si piazza sul podio, sul podio, sul podio. Leopoldo Benedetti! No, non risulta. È Standard & Poor's e la Confindustria. Leopoldo II del Belgio, quarto posto. Questo è sorprendente. 15 milioni di persone ammazzate. Poi c'era l'ex imperatore del Giappone Toyo, come cazzo è Toko alla spagnola, l'ho detto Toyo, 5 milioni. Poi c'era quello turco, la Enver Pasha, 2 milioni e mezzo. Il signor Pol Pot, 1 milione e 7. Kim Il-sung, 1 milione e 6. Poi Mengistu, 1 milione e mezzo. E poi c'era un nigeriano, non si sono fatti mancare niente in Nigeria, un tale Yakubu Gowon, che tra il 66 e il 75 ha ammazzato 1.100.000. Ah, 1.100.000. 1.100.000. Dunque, i primi due anche sono i comunisti. I primi due sì, ma erano comunisti. Anche. Ma dai, cosa ci su. Serve? C'abbiamo l'audio di Sala che dice che anch'io mi sono fumato gli spinelli. Signor Sala, sindaco di Milano, oggi credo che sia la giornata mondiale della cannabis. Inizia una grandissima festa a Milano, che spero non sia vietata. E Sala, sindaco di Milano, dice anch'io mi sono fumato gli spinelli. Poi dice sì, li fumavo prima, si commette qualche errore. Quale errore? Non c'è nessun errore. Uno se fumava degli spinelli, punto e basta. Lei si è mai fatto una canna? Sì, l'ho già detto, cioè, sono stato giovane anch'io, quindi sì, cioè, non, da questo punto di vista cerco sempre di essere sincero. Sono stato giovane, che cazzo vuol dire? Cioè, è pieno di gente a 50 anni, a 55, a 60 anni che fuma gli spinelli. Sono stato giovane anch'io. Questa cosa qua che si associano gli spinelli ai giovani è una grandissima minchiata. Cioè è pieno di gente over 50 che ogni tanto si fuma una cannetta, sì, punto e basta. Lo sai benissimo anche sì, tu. No, io ne ho 41 anni, ma non ne ho over 50. Ma non tu, non mi stavo riferendo a te. Stavo dicendo che è pieno di gente che tu conosci over 50 che ogni tanto si fuma una canna, punto e basta. Sì, sì, assolutamente. Ah, Gasparri oggi ti ha detto che sentiamo un po' Gasparri contro Parenzo. Omnibus. Sì, fai sentire quello che ho detto io anche Gasparri. Non lo so se abbiamo messo quello che hai detto tu però. Parenzo supplisce all'insuccesso con la vivacità. Sì, l'insuccesso. Allora, bella questa. Devi la puoi ancora, scrivere. Devi ancora, devo ancora allora, questo, ci sono prove. Abbiamo le prove, come disse Tony Blair. Allora, sì, come quelle dell'Iraq, bravo, sì. Infatti. Parenzo supplisce all'insuccesso con la vivacità, lo puoi scrivere sulla lapide. Devo dire che c'ha sempre delle battute straordinarie. Allora, sì, Salvini se la prende. È simpatico, è il Beppe Grillo del centrodestra. Allora, bella questa pure. Salvini se la prende con un centro di accoglienza a Cermigliaro. Il leader di voi con Scurciani. Sì, Salvini. No, è il leader di voi con Salvini. Te, di noi con Salvini. Delle liste. Ma non è vero, non è vero niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. Signor Salvini se la prende con la proprietaria di una villa che si chiama Villa Cermigliaro, una dimora storica. E che in accordo con una cooperativa accoglierà in realtà dei migranti di senti non è normale che nello stesso giorno in cui escono queste statistiche che raccontano di almeno 7 milioni di italiani in difficoltà economica qualcuno possa ipotizzare di usare dimore storiche per piazzarci chi? Questi italiani in difficoltà economica? No, assolutamente no. Vabbè, Villa Cernigliaro, che credo sia in Piemonte, dov'è? In Piemonte. E a un certo punto Radio Padania, il direttore chiama questa tizia, la proprietaria di questa villa che affitta una cooperativa. Senti. Tanti Chiaro. Italiani mi hanno Chiaro. Scritto, ma perché non ospiti me che sono senza ecco, casa? Ecco, però ospitare un italiano gratis non è gratis per noi, non per noi vuol dire pagare gas, luce, cioè per noi è un costo e non ne abbiamo più, ecco cioè lì. Non abbiamo veramente più da mettere. Non ti devi incazzare. Secondo te gli italiani sono contenti? Ma poi dici che non ti devi incazzare di prima mattina. Ma senti, lo fanno per amore e simpatia. Ma come? Ma, no, sai, l'italiano costa. Costa. È il terremotato. È una bella iniziativa. Con l'immigrato mi danno soldi. Ma non lo faccio per soldi. No. Non lo faccio per soldi. Ospitare un terremotato italiano, gli devo pagare la luce e il gas. Ma con quale naturalezza? Sì. Ma abbiamo perso ogni pudore, ogni dignità. Vabbè, il sunto è questo, capito? Cioè, la signora dice, io non ospito gli italiani gratis perché ci rimetto. Invece prendo dei soldi dalla cooperativa per accogliere gli immigrati come gesto umanitario. Certo, che vuol dire? Fa bene secondo te? Fa bene, dillo ad alta voce, fa bene. Ma ad altissima voce, ma dov'è lo scandalo? Dillo. Ma lo sto dicendo, amico mio. Ma dov'è lo scandalo? Io non capisco dov'è lo scandalo. Questa signora ha un'ala che non dà alla gente, agli italiani che chiedono di essere ospitati a gratis. La signora, ma cosa vuol dire? E ma non è la Caritas. Ci guadagna sugli immigrati. Ma cosa vuol dire guadagna sugli immigrati? Offre un servizio. Portati qui pare anche dall'ONG, come sai, che li prendono in mare. Li prendono, li salvano, salami. Li prendono in mare, li portano in Italia. Lo facesse lo Stato, lo facesse come lo fa la Guardia Costiera, come lo fa sempre a Lampedusa la Guardia Costiera. A Salvini gli fumano i coglioni, mi sembra, no? No, mi ma sai a me quanti? Sai a me quanto fumano quando vi sento a voi due? È un esperimento sociale, però insomma se ci danno anche qualcosa, poi non è nostro, c'è la cooperativa. Colombo, non ti girano i coglioni? No dai, così, per favore, no, diamo la voce a Colombo, non ti girano i coglioni? No, a me girano fumando. No, ma mi stanno fumando. A Salvini fumano i coglioni Colombo, perché poi la signora, non lo so, è uno là che stava ospitando. Il tenente Colombo è quello. No, ma voglio dire una cosa, a Salvini girano i coglioni perché a questa signora, perché sì, questa signora dice che non vuole ospitare gli italiani gratis, che magari chiedono, che hanno bisogno, perché dice che gli italiani costano. Invece con gli immigrati ci guadagna dei soldi. Ma a lui cosa girano vuol dire? I coglioni. O gli possono girare i coglioni. Ma così è una no? follia. Ma sì, ma fate degli assiomi. Avete una logica avete che chi? Non ha nessuna avete logica. Chi? Avete voi con chi? Luciani e voi con Salvini. Cioè avete un modo di ragionare che se la prima affermazione è sbagliata, tutta la frase sarà sbagliata, no? Cioè, le costruzioni del pensiero va fatta bene. Devi dire, questa signora va premiata, questa signora va data una medaglia. Ma non solo va premiata, va pagata per il lavoro che ha svolto, perché ha affittato una parte della sua casa, della sua tenuta, a un'associazione non governativa che si soldi, occupa di assistenza soldi, ai migranti. Soldi, sempre soldi! Chi lo fa? Soldi se non che lo fa diamo. Lo Stato, lo sempre, fanno i privati, sempre no? soldi che diamo ma noi chi, per questo ma business. Ma dove vuoi farli dormire? Per strada! È il business dell'immigrazione. Non puoi non pensare che li portano apposta per far come campare le cooperative. Come si chiama questa signora? Non mi ricordo, adesso me lo dico. Il nome dico. Di battesimo questa signora, qual è? Carlotta. Noi con Carlotta, voi con Salvini, questo è il punto vero. Quando sento il traffico divento pazzo! Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, è semplice. Se volete parlare dei vostri boccagli fatti da Lucia da Pordenone, o volete parlare delle vostre scopate in ospedale magari mentre voi eravate un paziente, o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlare delle dimensioni del chiattone da Napoli, o volete mortificare Parenzo perché non si è ancora fatto squirtare addosso, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al squirto. Ho un sogno. Vanna Marchi che squirta su Parenzo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Che orrore. Questo è un genio assoluto. Che orrore. Cioè, ma come ti viene in mente? È stupendo. Orrore. Ti viene in mente una cosa del comunque, genere? Comunque, mi genio. Fa schifo, non commento neanche. Comunque, non commento e chiudo qua la conversazione. E, comunque, con tutte queste battaglie anti-vaccini che si stanno scatenando nel nostro maledetto paese, a questo punto perché i 5 Stelle non propongono Vanna Marchi ministro della salute? Ma addirittura, dai. Certo. Vanna Marchi ministro della salute. Ma naturalmente. Fanno delle battaglie contro i vaccini, sì. Battaglie che io reputo criminali per la salute pubblica, per i bambini. Allora, andassero fino in fondo. Vanna Marchi ministro della salute pubblica. Vediamo. D'accordo? Allora, ecco, allora, dalla vostra parte, se non si può partire con quella Carabue roba. Contro Carabue. Ma Carabue è ospite fisso praticamente. Carabue, Carabue contro la piazza, sì, di Cona. La piazza di Cona. Sentiamo cosa imputano. Dove pare che sia stata molestata, sì, una ragazza e di 17 anni. E cosa c'entra Carabue? Che non è di Como, ad esempio. Ma è lui che ci va. Ma è lui che ci va. Sì, ma Cona, capisci, no, però Como, Cona. Vabbè, inquadriamola il tema. Carabue è un signore che non è mai stato a Como e non può rendere conto solo perché è un negro, un grasso negro, possiamo dire così, è un signore grasso e negro che però non è mai stato lì. Perché gli si devono imputare tutte le malefatte del mondo? Questa è la domanda. Ma ci va perché? Lui là. Ma ho capito, ci va lui, ospite. Lo faccio per inquadrare il tema. È un esibizionista, Carabue, dai. Lo faccio per inquadrare il tema. Il signore negro con la palandrana, Carabue, ecco, va dalla grasso, vostra parte. Grassissimo, molto simpatico. Questa simpaticissima. È un esibizionista. Ma no, tu sei è un esibizionista. Fottuto, io no. Tu è sei un fottuto esibizionista. No. Io no. Va bene, è okay, un allora fottuto Vanna Marchi esibizionista. Onesta. Vanna Marchi onesta. Ah, culo, e dai. Vanna Marchi onesta. Carabue Cona. Episodi anche di accoltellamenti, di feriti per terra. Questo è quello che preoccupa, perché passeggi con una famiglia, con un bambino, cioè, un sono cose che terrorizzano vedere queste violenze. Che non abbiamo. Vai zitto! Vai zitto! Buoni, buoni! No, smettila! Dai. Smettila, Carabue! Calmi! Il governo non si rende conto che ci sta svendendo. Carabue, se li porti a casa lei un po', due, tre, li mantenga per sei mesi. Non ce li mandi qua da noi. E stia zitto, per favore. Buoni, calmi. Al centro! Ma cosa cazzo? È un classico, no? Se le porti a casa su, un classicissimo, guarda, un classico. Ma io voglio dire, questi qua della piazza ancora, sì, sobillati chiaramente da qualcuno prima contro, no, Carabue. Ma figurati, ma no, dai, non dire cazzate. Figurati. Gli hanno detto attaccate Carabue e picchiate duro, ma è chiaro, qualcuno là dietro, ma giustamente, ma è tutto costruito, perché? Ma è evidente. Ma perché il povero Carabue deve essere responsabile a casa di tua, quello che è successo in quel cazzo di paese? Diciamocela tutta. Ah, Cona è un cazzo di paese. Ma sì, tu dai, lo chiami un cazzo di paese, ma Cona. Dai. Ma Cona. Sei mai stato a cos'è? Cona il Barbaro? Non lo so io cos'è. Dov'è sto Cona? Adesso chiameranno in 50.000 Parenzo, snob, che vive a Prati, non sa. No! Non so cos'è Cona! E non me ne fotte nulla di sapere che cos'è Cona. Cona, Conad, Conan il Barbaro, non tu lo dici? So. Non ne conoscevo l'esistenza fino a 40 secondi fa. I migranti non vogliono andare a Cona. Ma secondo te, ma se tu hai un migrante... Cioè, gli fa schifo andare a Cona. Ma non vagli via, ma vuole tornare sulla barca e dice rispedite immediatamente nel deserto subsahariano. Stai dicendo delle cose gravissime. Cosa vedere cos'è Cona. Adesso chiamo il sindaco di Cona. Chiama il sindaco di Cona. Ti faccio cazziare dal sindaco di Cona. Benissimo, stai dicendo Cona. Una cosa gravissima. Vediamo, che i migranti Cona, non vogliono Cona. Andare a Cona e Conetta, Cona. Dove è successo il casino lì. Cona, vicino a Ferrara è Cona, mi pare. Non vogliono andare là perché fa schifo. 2.900 abitanti, c'è un cazzo di nessuno. Cosa protestano, il capoluogo, vabbè, marcato il pericolo stupri. Ma perché lo imputano al povero Carabue, che è un professore universitario? Cosa c'entra professore universitario? Bisogna vedere, docente universitario, dai, vabbè. Come, vabbè, vabbè, dai. Voi lo sapete, vero, che Minniti è venuto giù il mercoledì dicendo svuoteremo la base e il giovedì mattina sono arrivati altri pullman scaricando nuovi profughi? Perché di questo stiamo parlando. Marcato. Ecco, noi nella bassa Provincia e nel Veneziamo siamo al derby dello stupro, perché Marcato, ovviamente se stuprano a Bagnoli vuoi che Cona sia di meno, faremo la Champions League degli stupri, Marcato, non c'è niente da fare, perché siamo un paese ridicolo. faremo la Champions League degli stupri marcato. Ma tu ti rendi conto? Ma tu ti rendi conto o no? Eh? Cioè, vuol dire immigrazione uguale stupri, questo vuole dire marcato sostanzialmente. Cioè, più vengono e più stupri ci saranno. Questa è la sostanza delle cose, dai, su, per forza. Enrico da Torino, vai, vai Enrico. Enrico! Enrico, sì, dai, pronto. Forza, forza! Sì, da uno studio fatto, sembra che direttamente proporzionale alla profondità della voce ci sia la capacità di interagire sessualmente, sia per gli uomini che per le donne. Dunque? Quindi, una voce profonda, bella, piena, praticamente di una sessualità libera, senza problemi, senza tabù. Sì. Se sento la voce di Parenzo, il primo idiota, 18:55. Qua. E allora? Tu, sessualmente avvocato. Quindi penso che Parenzo abbia veramente dei grossi tabù e sia bloccato sotto quello, sotto cioè, quell'aspetto. Cioè, dalla voce tu sei riuscito a capire che è bloccato sessualmente? Sì. Benissimo. Sembra avvocato trucco. Sembra schizzinoso. Tua sorella è schizzinosa. Così, adesso chiama l'avvocato. Tanto per gradire, sta con pelo, ma non fa più di tanto. Cioè, avvocato, molto... quello cioè che dalla strappo, voce di Parenzo. Quello che strappo io, guardi, non glielo vengo a dire alla radio. Ma adesso chiamo l'avvocato. Guardi, sei riuscito voce, a capire. Chiamo l'avvocato. Che ha dei problemi sessuali. Questo ma vuol problemi dire. Sessuali ce li ha lei? No. Aspetta, chiamo l'avvocato. Non dico che ha dei problemi sessuali. Ma l'avvocato. Ha dei limiti. Avvocato, scusami, c'è un ascoltatore che dice che ho problemi sessuali. Sessuali al 18:55, no, possiamo querelare? Limiti. Che tipo di problemi sessuali? Che ero impegnato a lavorare. No, beh, se non entrare nel merito, che ti frega? No, vorrei sapere. No, in generale dice che ho dei problemi sessuali. Continuate dopo a parlare. Lo so anche io, quindi vorrei entrare un po' come? Nel dettaglio. Ma che cazzo di avvocato sei? Continuiamo dopo. Parenzo. Sono Parenzo. Vincitore vecchio. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad! Pagato dal Mossad! Parenzo! È che una bella bestia. Pagato dal Mossad! Pagato dal Mossad! One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. Beppe, porca puttana! Pronto! Girl, you can roll your eyes up the very side of me. To everything inspire me. Baby, don't you lie to me. I'll take a moon swings, I'll take a hole in your dishonesty. America del Sud, Cile. Viaggio da più di 1000 chilometri sulla Panamericana, Melipeuco, Vigna del Mar, sull'oceano, dal vulcano all'oceano, 4 podcast della Zanzara e una bottiglia di vino. Siamo. E cazzo Cruciani, qua siamo davvero al top. Siamo al top. Arenzo e Cruciani, vergognatevi. Con lo stesso diritto, allora, io che lavoro in un centro commerciale, voglio andare in posta, voglio andare in banca, voglio andare a pagarmi le bollette, voglio andare dal gommista, voglio andare dal meccanico, voglio venire a rompere i coglioni ogni singolo sabato notte, ogni singola domenica mattina, voglio rompere i coglioni a tutte le altre migliaia di categorie che invece sono a casa il sabato e la domenica. Le regole devono essere uguali per tutti, altrimenti che vadano a cagare tutti quanti. Questo è un sistema schifoso e assurdo. E a Parenzo che dice di tenere aperto H24, dico di vergognarsi di vedere che cosa c'è in giro, anziché parlare a cazzo a vanvera come fa ogni giorno. Posso dire che questo è un emerito coglione, questo qua che ha lasciato lo questo hai messaggio. Detto tu e io sottoscrivo. No, è un emerito coglione, perché cosa c'entra? Cosa c'entra lavorare il sabato e la domenica? Ma cosa c'entra? Se io avessi un turno, se le trasmissioni fossero, che ne so, dal martedì alla domenica, lavorerei tranquillamente il sabato e la domenica. Non è che direi no, non si può lavorare. Normalmente le trasmissioni sono dal lunedì al venerdì ed è il motivo per cui non lavoriamo il sabato e la domenica. Cioè, poi ogni tanto Parenzo ha lavorato pure la domenica quando faceva la televisione. No, un anno. Per un anno ho lavorato la domenica, certo, non ho visto la mia famiglia di domenica, ovvio. Trovati 1,4 milioni di banconote false in un campo Rom. In un campo Rom di Vimercate sono stati trovati 1,4 milioni di banconote false in euro, franchi svizzeri e dollari, amico mio. Sì. rotondi sui vitalizi. Sapete che c'è questa vergogna di alcuni deputati che vogliono presentare ricorso, che hanno presentato ricorso contro il taglio, il piccolissimo taglio dei vitalizi, che sono una vergogna. Rotondi. Allora, il problema non è il vitalizio di 917 euro per quelli che hanno fatto in Parlamento una sola legislatura. Il problema è estendere questo istituto a tutti quanti i cittadini italiani che tra 20 anni avranno 67 anni. Cioè, lei dice che con 5 anni di lavoro tutti gli italiani dovrebbero avere i trattamenti privilegiati della politica. Dietro i tagli ai vitalizi ci sono le assicurazioni. Senti il complottista Rotondi, senti. Tutta questa polemica sui vitalizi è promossa, ispirata dalle grandi assicurazioni che vogliono portare l'Italia dove arriveremo, continuando a trasformare il retributivo in contributivo, partendo naturalmente dai politici, perché nella mia esperienza quando i politici si tagliano qualcosa è solo per tagliare tutto alla povera gente, per cui... Bah, le teorie di Rotondi. Questa vi pare una follia. Le teorie di Rotondi. Salvini da Messina, il governo organizza centri di soggiorno per invasori. Senti. 7 milioni di italiani in difficoltà economica, cosa pensa il governo a organizzare questi centri di soggiorno per quelli che sono invasori a tutti gli effetti? Quando uno sbarca viene fornito un kit. Ovviamente viene fornito il kit, immagino. Sì, sì. Borsone, niente, sono nuovi quando si sbarca. Quindi il kit cosa comprende qua allo sbarco? Borsoni, tute, due cambi, sì, magliette, biancheria intima, kit igiene, scarpe. Il kit per i migranti, Parenzo, ma quando sbarchi, il kit. Ma cosa soldi, vuol dire il kit? Business, ma soldi, ragazzi, ma guadagno business per le cooperative, ma questi ragazzi... La gente viene portata qui apposta. Vengono spesso buttati in mare, non hanno, hanno soltanto scoperto, i vestiti che hanno indosso dopo 30 giorni ma di cosa marcia c'entra? Di... E non gli si deve neanche dare il vestito. Senti, persino il PD, ma... persino il PD, ormai alcuni esponenti del PD ammettono che le ONG vanno a prendere le persone e le portano da noi per guadagnarci. Ma guarda, li vanno a prendere. Ma sì, guarda, li vanno a prendere. Potrebbero, perché non li portano in un altro ONG, stato? Eh? Perché non li portano in un altro ma guarda, stato? Che vanno lì perché non li portano ma a Malta? Un altro stato perché vale, ma tu... non li vogliono a Malta, non li fanno sbarcare. Malta, ma chi se ne frega di Malta? Ma che cosa vuol dire? Salvini annuncia una grande manifestazione anti-migranti il 2 giugno. Io ho lanciato la rivolta pacifica, la ribellione, la giornata dell'orgoglio il 2 giugno, altro che festa della Repubblica. Qua bisogna far pulizia, allontanare, espellere, controllare, reagendo ciascuno per quello che può fare nel suo privato. Allora andiamo in provincia di Milano. Una marcia razzista assurda. No, è come marcia razzista, ma no. Scherzi, potrebbe aderire alla Zanzara. No, tu, ma quale Zanzara? C'è la Zanzara di noi con Cruciani. Invece la maggioranza silenziosa è quella che non aderirà e lancerà grandi appelli alla popolazione a resistere, a fare delle contromanifestazioni. Marcia razzista quella di Salvini. Sì, no, ma due punti aperte virgolette. Una Andreino, marcia razzista provincia di Milano. Per dire, ma hai sentito cosa ha detto? Spianare. Fare, ma che roba è? La marcia dell'orgoglio italico, ma che roba è? Vai, Andreino, provincia di Milano. Andreino, ciao ragazzi, butta. Sì, però amico mio, come butta? Fate sentire, se no non sentiamo Andreino. Niente. Ti sto parlando al telefono. Va bene, vai, vai, dimmi. Porca mignota. Crucia. Ma stai calma con le parolacce, stai mangia calmo. Alle 7 e mezza, dile parolacce con un certo ordine, se le devi dire. Scusatemi, ho il gattino sotto mano, che lo sto coccolando. Il gattino sotto mano, lo stai coccolando il gattino? Vabbè, ma ognuno sì, lo fa quello. Ti saluta, Birillo, Birillo. Vabbè, dai, forza, vai. Oh, come va? Allora, volevo dire, allora, Parenzo mi sta sulle palle. Sì, ottimo, reciproco. Lei e Birillo anche a me. Andiamo avanti. Sì, anche il gatto, sì, mi no, sta sulle palle. È reciproco, guardi. Perfetto. Ci ho detto? Oh, vi sento poco. Vabbè, mi sento poco vai. Che non ha il cervello Mirella, collegato. Questo è un cretino. Mirella da Genova, dai, Mirella. Pronto? Dimmi. Allora, sto calma. Sì. Sentendo Parenzo si diventa razzisti. Mirella da Genova, va bene. Sentendo Mirella, si diventa razzista. Mi viene da sboccare. Ecco, basta. No, Parenzo, non offendere, se no poi chiami l'avvocato. Non offendere. Vai, Mirella, no, che vuoi dire? Spiegami, dimmi che vuoi dire allora, Mirella. Non c'è allora, io voglio dire. Quando questa difesa ad oltranza sugli immigrati non c'è difesa ad oltranza. Non c'è nessuna difesa a oltranza. Certo, nessuna. Che difendi ad oltranza, perché quando tu dici che gli immigrati non ci costano, dici una menzogna sapendo di mentire. Ma certo che ci costano, certo che costano. Ci sono i fondi dell'Unione Europea, ci sono i fondi che lo Stato stanzia. Li diamo noi, siamo noi che paghiamo l'Unione Europea. E ci mancherebbe altro, certo, anche noi diamo, certamente, non ovvio. Certo, anche noi, ogni nazione ha una certo. quota. Vabbè, ma e che vuoi dire con questo, Mirella? Cosa faresti che tu? Vanno gestiti, infatti va gestita meglio. Noi non ci possiamo permettere Mirella. Guarda che questo paese non si può permettere persone come Mirella. Ma perché? Che totalmente. Ti ha fatto Mirella? Non offendere. Ma non ho offeso nessuno. Ho detto che non ci possiamo permettere gente che ragiona così. Cosa vuol dire ci costano? Ma lei sa quanti soldi ha stanziato la Germania per l'integrazione e l'accoglienza? Corsi di lingua tedesca? Certo, l'accoglienza si chiama. L'immigrazione non la ferma Mirella, noi con Cruciani e noi con Salvini. Voi tre non fermerete un fenomeno che è globale, non ce la farete. Quindi è meglio attrezzarsi, organizzare bene l'accoglienza, fare una buona, ottima integrazione, creare delle strutture. Fermare, bloccare i balconi, fermare tutto. Tutti, non far entrare più nessuno, sono quelli tutti. Che lavorano. Esatto, bloccare, direttore del traffico, bloccare, sei, bloccare Mirella, tutti, allora Mirella. Io vorrei ricordare a Parenzo che è così forbito in quello che dice. Il verbo accogliere è un verbo di libera scelta. Quando tu mi imponi l'accoglienza, non è più accoglienza e io non voglio accogliere nessuno. E quindi cosa facciamo? Non vuole accogliere nessuno, Mirella. Non voglio accogliere nessuno. Quindi cosa facciamo? Quando sbarcano cosa facciamo? Niente, non li facciamo sbarcare. Li lasciamo in mare. Mirella, perfetto. Mirella, due punti, li lasciamo in mare. È già stata Mirella. Dalla vostra parte, signora, lei? Ma è già stata ospite dalla vostra parte? È stata ospite a Quinta Colonna, già? C'è già stata? Se affogano, che succede? Si affogano, hai detto lasciamoli in mare. Andarli indietro, facciamo in modo di diciamo con questa voce gentile già viene. Ragazzi, Lampedusa è diventata una cosa indecente. Ma c'è mai stata lei a Lampedusa? Sì, tante volte sono stato a Lampedusa. Ho visitato il centro. Dai. Ora lì si sta costruendo una casa di prima accoglienza per minori non accompagnati. C'è il dottor Bartolo. La popolazione di Lampedusa è la più Lorenzo da Milano. Fammi sentire Lorenzo, Mirella. Tieni la schiena dritta, tieni su, ma forza! C'è bisogno c'hai della schiena dritta. Lorenzo, ciao, ciao. Dimmi. Pronto? Vai. Ciao. No, vabbè, lasciamo stare il discorso migranti non migranti, tanto poi alla fine vedi ognuno ha le sue. Vabbè, allora. La cosa importante sarebbe non andarle a prendere sulle coste libiche. Nessuno li va a prendere. Quello che volevo raccontarti è un'altra cosa riguardo lo spirito. Ah, lo squirting, sì, però amico mio, togli il viva voce, togli l'auricolare, cazzo. E allora non rompere i coglioni, adesso ti richiamiamo con l'auricolare, non si parla, non rompere il cazzo, aspetta. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, pubblicità. Beppe, porca puttana. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. La zanzara. Come si fa a telefonare qua? Basta schiacciare il tastino verde. Il tastino verde, ecco fatto. Ma io devo telefonare a Roma però, Veramente non si potrebbe, però c'è un trucchetto, no? Con l'altra mano schiacci il tastino rosso. Questo qua? Vabbè, ho fatto. Adesso faccia lo 06 e poi il numero. Con chi lo faccio, col cazzo? Thomas Millian. Ma continua la guerra tra Marcato e Carabue. Una Marcato saga contro Carabue. Mi piacerebbe dire a Marcato che quando loro erano al governo hanno ancora Carabue, noi ci siamo da mille anni, ma Carabue, ma vedi quando noi eravamo al governo ancora, ma ci sei tu, cioè, al governo ridicolo, sei ridicolo, ci si trova ridicolo in un paese di ridicoli, problema planetario. Carabue, la condizione quando eravamo al governo, quando bisogna metterne pochi dovunque. Non ma è dove? Fare ma basta, ma basta. Fatemi tornare un attimo. Fatemi tornare un attimo a Bolzano, dai. Non li vogliamo più, basta. Bolzano, basta. Bobby, non si integrano. Dove sono? Tieniteli tu, dice Marcato a Carabue. Facciamo prevenzione nei confronti di alcuni migranti che arrivano da paesi dove la donna è considerata alla stregua di un cane. No, e facciamo prevenzione a questa gente qua. Soldi buttati via, sta gente va rispedita a casa. Ma che cosa loro, dici? Ma ti rendi uno che conto non considera che la donna non ha possibilità fesserie di rimanere in Italia? Perché sì, ci sono ridicolo, migranti che arrivano da culture e da paesi dove la donna riesci, è considerata peggio di un cane. Vero, questi non hanno non possibilità di rimanere in Italia. Vedi, e lo sai anche tu, Carabue, lo sai persone, anche tu che ci sono paesi dove la donna è considerata meno di un cane. E sta gente qua non voglio calma integrarla, non la voglio integrare, io non voglio integrarmi con loro. Allora, eravamo con Lorenzo, Lorenzo, hai ripreso ecco bene la comunicazione? Sì. Oh, mi ottimo, vai fermato. Lorenzo, allora, ci stavi parlando adesso di squirting, sì. Sì, allora, per questo motivo, allora, so che lo squirting è la simulazione di alcune ghiandole, però quello che è successo a me, la mia testimonianza, è stata che ho visto una ragazza, e l'ho visto con i miei occhi, dunque ti posso assicurare che è vero, che squirtava praticamente da sola. Cioè senza essere stimolata, dici tu? Senza essere stimolata. Vabbè, cioè, nel mondo ci sono, c'è di tutto, Sì, sì, però era molto particolare, anche perché... Amico mio, ma da dove stai chiamando? Scusami, io sarò fissato. Da dove stai chiamando? Con che sei collegato? Dimmelo, ti prego. Shop, ti prego, dimmi con che sei collegato, per non mi fare incazzare per la seconda volta. Con cosa sono sei collegato? Sono collegato col mio telefonino. Sì, ma non stai parlando normalmente, stai parlando da una specie di Bluetooth, non so che cosa, cioè, comunque... Assolutamente no. Vabbè, dai, fermato, dai Lorenzo, vai. Ho tolto il Bluetooth, vabbè, il telefono del telefonino. Allora, non Lorenzo, sì, abbastanza, adesso sì. Allora, non ho capito, tu praticamente hai visto una donna che squirtava senza nemmeno essere toccata, giusto? Esattamente, esattamente. Vabbè, lei si toccava in una, però. In una piscina? No, no, assolutamente no. Ma in una piscina come hai fatto a capirlo, scusa, non ho capito. Era dentro l'acqua o fuori? Sai, no, era fuori dalla piscina. Ma chi ti frega di analizzare tutti i dettagli di sta porcheria? Geneva e ogni tanto usciva e eiaculava. Ma non è possibile, sarà stata bagnata una scena vergognosa, dai, ma la scena, ma dove è successo? Come mai capitano tutte? Ma come mai capitano tutte qui alla Zanzara queste? Ma questo sono come i nani, sono come c'è. Ma come mai io non ho mai visto una scena di questo tipo? Perché? Allora, come mai? Io non ho mai visto. Forse perché Dottore è andato a cena con Dottore Loschild? Forse? Forse per quello? Forse sì. Vabbè, allora potrebbe anche essere. Il ballone di Loschild. Alla testimonianza di Lorenzo, ho visto una donna squirtare senza essere toccata fuori dalla piscina. Faremo l'inserto della domenica del Sole 24 mi ore. Mi viene il dubbio, Lorenzo. Ogni 10 minuti. Però si è messo lì perché questo è demente. Si è messo lì con l'orologio. Ma giustamente era curioso. Grande reporter. No, la curiosità c'era, che ragionamente. Però scusami Lorenzo, mi viene il dubbio in realtà che sia semplicemente se facesse una doccia, assolutamente no. Ma scusa, come faceva libero, guarda, fai la notizia, ti guarda. Ah, oggi c'è una cosa che ti interessa. Sì, ho visto. Allora, non ho capito Lorenzo, come facevi a saperlo? Avrà avuto il costume questa qua in piscina, no? non aveva il costume perché era una piscina per nudisti. Per nudisti. Una piscina per nudisti. Una esattamente. Okay. Noi dovremmo credere al fatto che tu nel sud della Francia dovremmo credere al fatto che tu sei andato in una piscina per nudisti e va bene. E questo è possibile nel sud della Francia. Questa qua senza essere toccata, senza essere, ogni 10 minuti lì in piscina si metteva così a squirtare, così, ma faceva dei movimenti oppure camminava e squirtava. Non ho capito. No, era ferma, sì, gemeva e squirtava. E in piscina, ci ha spiegato il marito che lei quando si eccitava faceva così. Ah, e poi si è messa anche a parlare col marito. Un convegno hanno organizzato poi. Dai ragazzi, è vero, cazzo, ma era un posto per nudisti. Sarà stato a cosa? Il marito si è messo lì ad analizzare. Come si chiama? A Cap Dagd. Esattamente dove pensi tu, amico mio. Conosci dov'è Cap Dagd, Parenzo? Ma non ho idea. Cap Dagd. No, lui non può conoscerla, Parenzo. No, io non sono mai stato. Mi dicono che però sia un bordello là. È un bordello a cielo aperto. È diventato un bordello a cielo aperto. È un bordello. Allora, sinceramente, è troppo. È troppo anche per te, capito? Troppo. Cioè, praticamente, no, Parenzo, c'è gente. C'è, io non ci posso andare perché mi riconoscono, però c'è gente praticamente che si inchiappetta all'aria aperta. Cioè, tutti nudi, gente che si inchiappetta, gente che si tocca ovunque, orge, cose pazzesche. Vabbè, Lorenzo, ciao. È una cosa veramente senza. Ok, ciao. Spruzza via acqua dalla vagina ed io mi spaventai. Crucians, stamattina appena sveglio, colazione. Vado in bagno e mentre ero lì a fare le mie cose canticchiavo spruzza via acqua dalla vagina ed io mi preoccupai. Irrompe la mia compagna imbestialita e mi fa ma che cazzo canti alle 6:30 di mattina? Ed io ma dai amo, è il nuovo ritornello della Zanza. E lei ma muori male tu e quei due coglioni, inizio della giornata allo squirto. Cara, ti ho pensato spesso in questi anni e voglio farmi perdonare. Torneremo io e te su quella spiaggia e stavolta non scapperò. Ora ho capito tutto, mio nipote mi ha mostrato dei filmati sull'internet che altre ragazze la fanno quella cosa lì e tanta anche, tanta, questo perché spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani. Beh, ti sto preparando una sorpresina. Ma per chi è il Bob Dylan che ha scritto questa poesia? Ruggero dei timidi, amico mio, ti sto preparando una sorpresina la settimana prossima. Tremo, una sorpresa, tremo già, amico mio. Tremo già. Zitti. Libero.it. Dai. La foto è della signora Panella della 7. Cioè, sì. Il titolo sopra è Estremo. No, ti giù, Estremo. Sì. Estremo, che è successo? Panico alla 7, virgola. Arriva con il forcone in studio. Due punti. Panella e Mussolini sotto shock. Ma non sotto è shock. Chi è il brutalizzatore? E poi c'è il maledetto guarda, quello che io odio, il guarda. Uno clicca, panico, no? Estremo, forcone e quant'altro. Panella e Mussolini sotto shock. E allora? Terrorizzato dall'ondata di violenza si difende con il forcone. Ci va anche in TV Tiziana Panella, conduttrice di Dagadà, ha invitato questo signore che ha spiegato la sua teoria sulla legittima difesa. E dove sarebbe lo shock della signora Panella? Dove sarebbe? Dov'è lo shock? Non c'è nessuno shock, nessuno, anche dalla foto, nessuno. C'è un imbecille con il forcone. Estremo. Arriva con il forcone. Panico alla 7. Chi è il brutalizza? E poi guarda. Cosa guarda? Cosa? Andrea da Treviso, vai Andrea. Sì, salve, sei Cruciani, ciao. Dimmi, ciao. Dimmi. Volevo dirti solo che questo paese è una fogna. Una fogna a cielo aperto. Sì, che vai, senso, i mezzi giusto, pubblici, sì, i treni, sì, trovi un disastro. Tutto un disastro. Sembrano tutto delle fogne. Fogne, di gente che puzza. Sì, puzza, piscia per tutto. Devi andare su una freccia, altrimenti sei. Ma dipende, non è sempre così. Cioè, è non vero è che sui treni dei, i treni dei pendolari è vero che sono. Gente non paga, sì, più biglietto, è una guerra ai controllori, sì, la sicurezza è dannata. Ma tu che fai, Andrea? Che fai di mestiere tu? Io operaio. L'operaio, cioè quando sali sui treni, cioè, com'è che hai fatto questa verifica? No, sono stato perché sono uno che va al processo della Parmalat, va a chiedere i suoi soldi dopo 16 anni. Non ho capito, che fai? Vado al tribunale di Milano a chiedere i soldi, andrò in mutande all'assemblea prossima a Parmalat. Quale assemblea di Parmalat a Milano? Vabbè, perché cosa? Esatto, per cui vado su e giù per i treni. Avrà perso i soldi, fogna, nel crack della Parmalat. Cioè, hai perso dei soldi? Sì, sì, è un dramma quello che va avanti da ormai da 13 anni, i giudici non vogliono la sentenza, ci sono i tribunali che fanno il cavolo. E tu dici che ormai questo paese è diventato un magna magna, dici? Sì, sì, giustizia è da 16 anni che non si ottiene, su certi tribunali si ottiene a favore dei risparmiatori, su altri alle banche. Sì, ma che c'entrano gli immigrati, scusa? Che c'entrano gli immigrati? Poi c'è anche questa situazione di immigrati, uno sbarco che da problema va a aggiungersi altro problema. E qua non se ne viene più fuori. Ma tu questi immigrati secondo te puzzano? Che fanno questi immigrati? Fanno schifo? Sì, veramente, ci sono zingari. Zingari dappertutto. Stazioni che scorazzano come matti. Beh, scorazzano adesso, scorazzano addirittura. Zingari che scorazzano, orste di immigrati. Un titolo di libro perfetto, scorazzano, perfetto, un titolo meraviglioso. Per ciao libero. Andrea, ciao. Io capisco anche questa sicurezza che corrono di qua e di là, ma vedi è una lotta impari insomma. Impari, anche assolutamente. Perché se li prendono, anche se li prendono, cosa gli fanno? Nulla, nulla. Li cacciano fuori, poi rientrano dalla porta di sicurezza, le stazioni, per cui... Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Parenzo, con noi il senatore Bartolomeo Pepe. Buonasera, buonasera. Fermate le rotative. Come stai? Bene. È vero che vuoi, nel caso di scoppio di una guerra, tornare in Corea a fare lo scudomano? Sì. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire concretamente? Spiegami. Se questo potrebbe salverebbe anche la sola vita umana, ne varrebbe la pena, che ne dici? Bene. Non lo so, ma sai, non credo che quelli si fermino di fronte al fatto che ci sono alcune. Anch'io, non si sono fermati non si sa... ultimamente gli americani. Non si sa mai, dici tu, no? Non si sa mai. Ma hai visto mai che riusciamo a fare qualcosa? Cioè, la Corea del Nord è una dittatura per te o no, innanzitutto? Oddio, con tutti i suoi pregi e difetti potrebbe sembrare a prima vista una dittatura, ma se la vuoi paragonare con gli americani non regge, perché consideriamo le ultime guerre che hanno fatto gli americani, e tutte le guerre che hanno fatto i coreani, loro sono fermi al 1950 con gli americani stessi. Ci hanno provocato molti più danni al mondo gli americani dei coreani, dici? Mi sembra di sì, non ti ridono a me, non mi risultano. Dal 50 in poi abbiano fatto delle guerre i coreani. Bene. Non ho capito qual è il discorso. Cioè, secondo te la Corea del Nord non te ne frega niente che ci sia uno che comanda Kim Jong-un, una dittatura? Ma Kim Jong-un non è esattamente un dittatore, credo che sia un garante, perché lì chi è il nonno Kim li ha praticamente salvati dopo 40 anni di dominio giapponese, dove praticamente erano... venivano usate le coreane per fare le prostitute, i coreani venivano usati come schiavi per fino al 1940. Sì. Quindi hanno subito veramente 40 anni di e quindi Kim non è un dittatore, ma viene visto come il padre spirituale, se vuoi, che l'ha liberato sia prima dai giapponesi e poi dagli americani, e quindi c'è quasi una venerazione, quindi è un po' come il garante, un po' come la regina d'Inghilterra gli inglesi. Chiamarla dittatura Cioè, secondo te è sbagliato chiamarla dittatura? Cioè, bisogna contestualizzarla nel... Contestualizzarla, va bene. Cioè, non mettono in prigione i dissidenti, scusami, Bartolomè. Allora, da quello che ho visto, c'è una situazione veramente interessante, nel senso che loro forniscono come Stato qualsiasi cosa al cittadino, quindi no, non c'è un vero e proprio dissenso, c'è quasi una donazione da questo punto di vista. Poi loro dello Stato ti fornisce di tutto, ti fornisce dello Stato, ti fornisce della casa. Dunque, ci sono molte cose positive. Devo dire la verità, io non ho avuto impressione di averla. La criminalità è pari a zero, non c'è prostituzione, c'è un rispetto per le donne che noi qua, penso che ce lo siamo scordati. Sì. Non c'è più rispetto per le donne lì che in Italia, dici? Sì, cioè, la donna è madre... Madre operaia, guerriero, soldatista, cioè, devo dire la verità. Cioè, abbiamo da imparare molto dalla Corea, stai dicendo? Secondo me sì, è un paese da visitare. È chiaro che avrà sicuramente dei difetti, però sono più i pregi. Più i pregi. Ma secondo me sì, perché credo che sia l'ultimo stato socialista che esiste su questo pianeta e fra un po' scomparirà. Non penso che resisterà molto. Lo vedo un vaso di coccio schiacciato fra la Cina, la Russia e l'America. Cioè, per te il fatto che ci siano, per esempio, le notizie sui lager, le notizie sull'atomica, le notizie sull'uccisione di alcune persone vicine che erano tra i militari, i capi, eccetera, non ti impressionano? Tutte cose della propaganda, dici? Sì, la maggior parte sì, è stata una propaganda, un po' come quando è successo per Gheddafi e per Saddam, poi alla fine si sono rilevati poi le notizie fondate. Cioè, secondo te oggi è più pericoloso Trump di Kim? Guarda, non c'è proprio paragone, secondo me. Un'altra cosa collegata a questo, secondo te, per esempio, non c'entra niente, ma l'ISIS da chi è creato, da chi è stato creato? Cioè, ci credi alla guerra al terrorismo o è tutta una buffonata? Ma credo che sia stata una scusa per poi destabilizzare paesi che non erano allineati come quelli della Siria. Ah. Cioè, per esempio, ad Assad come il grande nemico, come il grande massacratore, tu ci credi o no? Non ce la faccio più. Lo so che Parenzo non ce la fa più. Parenzo non ce la fa più. No, no, ma scusate, so, parlo da solo, non ce la faccio più. Fammi parlare con Bartolomeo, voglio sentire le sue opinioni. Sì, per carità di Dio, ho detto non ce la faccio più. La sua opinione su Assad, voglio sentire la sua opinione su Assad. Vai, Bartolomeo. Allora, la mia opinione su Assad è che comunque è un presidente normalmente eletto dai cittadini. Le armi chimiche non mi sembra che l'abbiano usate, perché nel 2013 furono sequestrate e portate a Gioia Tauro. Sì. Infatti ci interessiamo anche di quella situazione. Tu mi stai dicendo semplicemente le armi chimiche Assad furono sequestrate, non sono mai state usate. Chi dipinge Assad come un criminale sbaglia. Per te non è un dittatore Assad, non è un dittatore da battere. Mi hanno parlato fra i pecassi canagli, però sinceramente non mi risulta che sta attaccando lo Yemen come sta facendo l'Arabia Saudita. Allora Parenzo, poi intervieni su quello che dice Bartolomeo. Però Parenzo, come fai a intervenire su tutto questo universo mondo? L'ottimo Pepe, un signore che sosteneva l'esistenza delle scie chimiche, un signore aspettiamo. Allora, voglio chiedere una cosa sui vaccini che è molto d'attualità, Bartolomeo. Ecco, anche i vaccini importanti. Allora, secondo te, però questo è molto importante. Secondo te, oggi i vaccini sono necessari, sì o no? Assolutamente sì, sono stati necessari per ben 300 anni, è stata la più grande scoperta del secolo, ma detto questo abbiamo qualche problema con le multinazionali che insomma stanno pressando per alcuni tipi di vaccini. Sì, tu sei contro anche quello col morbillo, per esempio, ho letto. No, attenzione, non è che sono contro il morbillo, il problema è che vengono associati alla partita della rosolia, quindi l'MPR, che è stato accertato in America, hanno avuto dei casi che sono stati dal CDC americano occultati appunto per reazioni avverse. È uscito uno scandalo che è stato messo a tacere, perché ovviamente le farmaceutiche hanno... Tu hai detto che è meglio che un bambino prenda il vaccino. Si prende il morbillo. Il morbillo, sì, scusa. Non è una malattia tale da cioè, io mi ricordo le sette malattie che si dicevano quando noi eravamo piccoli, le nostre mamme dicevano, si auguravano che noi lo prendessimo, così si toglievano il pensiero. E infatti, scusi, più sono i bambini vaccinati oggi, meglio è, perché in realtà, se no, il virus diventa ancora più forte e il morbillo che ha preso lei è meno grave del morbillo che prendono oggi. Quello che voi dite è criminale. Quello che voi dite è criminale. Quello che è criminale, che a capo della farmacovigilanza ci mettiamo gente che a un certo punto si è beccato le mazzette per non controllare il farmaco, quindi che stiamo dicendo? Cominciamo a mettere sono persone cosa c'entra? È stata rimossa quella persona, che dite? È andato a lama, ma lei prende le sentenze, ma guarda che nel momento in cui l'etica e la morale nella farmacosorveglianza è un problema, perché le nomine sono a nomina politica, allora non prende neanche più l'aspirina. Allora lei non prende più l'aspirina. Allora no, allora non fa parlare, scusami. Dimmi. Allora la questione è questa: mi è capitato personalmente un episodio personale, ok, dove mia madre si è fatto il vaccino antinfluenzale, io non c'ero. Mia madre viveva da sola con la banana. A un certo punto, il medico ha fatto il vaccino antinfluenzale e abbiamo avuto tutta una serie di reazioni avverse. Chiedo al medico quale vaccino gli hanno fatto, scopro che il vaccino era fluidatuato. Vado a fare una ricerca a rete, il vaccino era stato sequestrato dai Noe l'anno prima, alla Novartis. Dopodiché era stato sospeso, poi è stato riammesso perché le morti sospette non erano state collegate, con un'indagine molto frettolosa. Ma ci sono degli scienziati che dicono non è tutta una mazzetta. È stato riammesso, poi è stato addirittura prorogato. Dunque? Tutta una serie. No, mia mamma è morta dopo 3 settimane con tutti gli effetti collaterali presenti su un giardino. Ho chiesto di fare la segnalazione. La segnalazione non mi è stata possibile. Cioè, tu stai dicendo che tua madre è morta a causa del vaccino antinfluenzale? Va bene. Ho anche denunciato tutta una serie di soggetti, tra cui anche il medico che ha fatto il vaccino, ma la domanda è, io volevo fare una segnalazione per reazione avversa, il medico si è rifiutato, mia mamma è morta per un infarto, nonostante eravamo 4 di noi a mettere... Cioè è morta a causa delle reazioni dal vaccino... aveva tutto i muscoli completamente bloccata, guarda, visto, è una cosa... Bartolomeo, se tu fossi oggi, se dovessi consigliare a qualcuno di fare il vaccino antinfluenzale, lo faresti o no? No, io dico è da fare, ma farlo con bisogna vedere bene il bugiardino, quali effetti con la no, bisogna vedere le condizioni di salute in cui lo fai. Possono sopportare il tipo di vaccino, se specialmente adurato. Io voglio capire una cosa. Quando tu hai scritto piuttosto che vaccinare allora, curati tre, con Vanna Marchi. Curati con Vanna Marchi allora. Scusami, ho capito che c'entra Vanna Marchi. Allora, piuttosto c'entra. Tu hai scritto ragazzi, piuttosto che vaccinare 30 bimbi si potrebbe mettere 29 bimbi in classe col primo che prende il morbillo. Vabbè, o è una troppo cosa più logica. È che troppo pratica, perché al momento lui. Tu prendi i morbilli, il morbillo tu hai è praticamente immune. Le prendo un'altra volta, è il miglior vaccino che tu possa fare. Beh, può portare a delle cose gravi il morbillo. Molto gravi. Non mi sembra, abbiamo avuto più problemi con gli effetti indesiderati. La varicella può portare alla sterilità degli uomini, ad esempio. Perché non è che tu fai solo il morbillo, tu fai il morbillo, partita rosolia, sono tre. Certo. Che cos'è che non è io lo faccio domani a mio figlio di un anno e mezzo, figurati. Tu stai dicendo che tu hai sempre detto che i vaccini sono una grande truffa alla fine, questo l'hai detto. Allora, alcuni vaccini, sì, perché poi nella trasmissione di report mi sembra che la cosa è uscita. Quello è su un vaccino, però, è su un vaccino. Io non tutti i vaccini sono da demonizzare, assolutamente. Però è chiaro che a un certo punto non riesco a capire quando alcuni vaccini, le farmaceutiche, fanno di tutto per promuoverli. Alcuni vaccini possono portare, possono portare all'autismo, secondo te? Ma addirittura ci sono. È la stessa la Glasgow che mi no, ma rispondimi, sì o no? Sì, possono portare. No. Sì. La Glasgow non ha mai detto una minchiata simile. No, non c'è. La comunità scientifica non ha mai. No, ma questo non si può dire, però. Praticamente, stai a leggere i documenti come mi sono fatto. La comunità scientifica internazionale non ha mai trovato un solo. Guarda. Luca Montagna e Giuliani e tanti altri, ma, tutti di comunità scientifica. Ma guarda che è incredibile, questo, però, scusa, ma questo non si può dire, non c'è nessuna correlazione. Non c'è nessuna correlazione tra l'autismo e i vaccini. È una minchiata. Ma con quelli che sono stati farmaceutici dalle farmaceutiche. Siamo punti ma guarda che è incredibile. Non è quello, le farmaceutiche hanno un potere economico che fa paura. Non c'è nessuna validità scientifica alla minchiata che stai dicendo, nessuna. Fai del terrorismo, del terrorismo psicologico a milioni di italiani, è pazzesco. Cominciamo a fare. No, se tu io accetto tutto, ma se tu dici che c'è una correlazione tra il vaccino e la meningite, dici una minchiata. Bartolomeo, scusa un attimo, quali sono i vaccini? Quali sono i vaccini? Per adesso io farei quelli obbligatori e farei solamente all'età di 3 anni e non certo all'età di 3 mesi, che è una cosa da criminale. Ma io farei. Ma cosa vuol dire io farei? Tre mesi da criminale. Ma io farei, ma non è io farei. Si parla di salute pubblica, non è io farei. Facciamo fare i vaccini a 3 anni e non a 3 mesi. E daresti libertà, oppure è sbagliato che siano obbligatori? Bisogna imporlo a tutti, ma che scherzi. È sbagliato che siano... Ma bisogna, devono essere di maniera obbligatoria che i 4 che hanno deciso di farli, non di più. Sì. E assolutamente bisognerebbe fare la metà di 3 anni e con vaccinazione singola. Sotto stretto controllo medico e facendo un pre-screening per vedere se il bambino ha delle reazioni. Allora, un'ultima cosa. Mamma mia. Fa 18 vaccini a 3 mesi e quello là praticamente incomincia a avere delle crisi epilettiche. Come ci sono stati? Allora, scusami un attimo, guarda, l'ultima cosa. Davvero per te esistono le scie chimiche? Sono un pericolo per il mondo? E per la salute? Vediti il film Overcast e poi non dopo ne parliamo. No, ma dimmelo, sono un pericolo o no? Vediti il film Overcast, è un bellissimo film. Evidentemente tu dici che sono un pericolo. Esistono e sono io un pericolo. Io non ho detto che sono un pericolo. Dico, vediti il film Overcast e ne parliamo. Vabbè, d'accordo, ciao, grazie. Ciao, prego. Avete sentito il senatore Bartolomeo Pepe. Ha detto delle cose. Bartolomeo di una Pepe ha detto inaudita. Che secondo lui c'è una relazione tra i vaccini e l'autismo, da quello che ho capito, che bisogna vaccinarsi solo a 3 anni e non subito. Questo io riassumo, ha detto che la Corea del Nord è, se non ho sbagliato, in un passaggio c'è pure la frase ci sono le elezioni, la democrazia, cioè non è un dittatore, no. Kim, un liberale, cresciuto alla scuola di Einaudi. Che gli Stati Uniti sono più pericolosi della Corea del Nord e ha confermato che va a fare lo scudo umano. Bene. Lo scudo umano. Avanti, prego, paghiamo il biglietto. Su. Avanti. Allora, come definisci il signor Pepe? Un coglione, secondo te? Come lo definisci? È limitativo. Non volete vaccinare più che un coglione. No, ho detto solo è limitativo. È limitativo dire coglione. C'è molto un irresponsabile. Molto limitativo. Limitativo, chiaramente. È limitativo. Non volete vaccinare i bambini? Ecco la conseguenza. 1600 casi di morbillo in Italia nel 2017. 4 casi su 10 hanno chiesto il ricovero in ospedale. Età media delle persone colpite è stata di circa 27 anni. Il 50% dei contagiati aveva tra i 15 e i 39 anni. Fermola. Sì, io mi fermo. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Ma va suca! La Zanzara. Nei tre giorni del Ponte di Pasqua sono arrivati 8.500 migranti e tu hai il coraggio di dire che tutto va bene, dobbiamo accogliere. Io non sono per niente razzista, ma è una cosa insostenibile. Sono 10 anni che arrivano questi qua, in Europa non li vuole nessuno. E secondo te ce li dobbiamo accollare qua noi? L'Italia, paese in salute, paese che tutto va alla grande, e pigliamo cristiane. Cai stanno morendo tutta la fame, cristiane. Un anno so come ti riesce una pignata e tu rompi i coglioni a dire che dobbiamo accogliere. Parenzo, credimi, ti neras tante tu un po' ladda, ti vai a staccare tutto niente, ti giuro vero, pezzi di fango. L'editoriale da Palermo. Sì. Contro Parenzo e l'accoglienza. Pezzi fang. Sarebbe pezzo di fango, immagino. Sì, assolutamente. Interessante. Luca, non so da dove, Reggio Emilia, da dove Luca? Luca Telese sarà. Luca, no, sei pronto? Da dove chiami, Luca? Da Reggio Emilia. Reggio Emilia, dimmi. Reggio Emilia, la patria del tricolore. Io ho nominato perché mi potrebbero riconoscere. Io volevo portare la mia testimonianza sullo squirting. Sì, ma che te ne frega, scusa, perché chiami se poi dici uno chiama dalla patria del tricolore? No, non vorrei troppo entrare nei dettagli, però potremmo fare una piccola parentesi. No, voglio sapere questa cosa dello squirting, dai. No, però scusate, il senatore Pepe ha ragione. Su che cosa? La Nord Corea, quanti stati ha invaso dalla sua esistenza? No, ho capito, ragazzi. Uno quanti dissidenti ha fatto fuori confronto agli Stati Uniti? Cioè, tu stai dicendo che è più pericolosa gli Stati Uniti per i diritti umani rispetto alla Corea del Nord? Gente matta. Ma lo sottoscrivo. Vabbè, ragazzi, se vi piace così, che ti devo dire? Se vi piace così, ma che vuol dire provato? Ma sono ruoli diversi, quelli sono chiusi. Quelli sono chiusi. Ma ho capito, ma quelli sono chiusi nell'autarchia. Ma che cazzo vuol dire? Certo che non invadono nessuno, perché altrimenti gli farebbero un culo così. Dai. È una finta democrazia. Gli stessi americani sono molto guerrafondai. Non lo voglio mettere in dubbio. Vabbè, dai ragione a Bartolomeo Pepe. Va bene, per carità, ma va benissimo. No, sì, va bene, provato, tutto ormai. Non è che io me lo sto inventando, nel senso, voi fate fare la figura dei pazzi a chi non lo è. Ma io non sto facendo la figura dei pazzi. L'abbiamo lasciato parlare anche tranquillamente. Grande Parenzo, adesso con quello che ti sto per dire ti stupirò comunque. Dimmi. Comunque io volevo parlare di... Quanti anni hai, Luca? Quanti anni hai? 29 anni, questa cosa mi emoziona. Quando chiamo uno di 29 anni, 29 anche anni, 20, 29, mi emoziono. Non so e perché. La prima squirtata in faccia me la son fatta fare a 15 anni. Vabbè, sì, vabbè, adesso da dove è uscito con Malchionne. Te lo giuro. È stato quasi una scoperta. E io, quelle ragazze che hanno questo dono, perché è un dono. Io spero che la madre di sto ragazzo lo senta. Provo profonda ma e così è. Sono secondo me anche ragazze molto più intelligenti. Beh, che succede? Beh, adesso non esageriamo. Che succedeva? Scusa, spiegami bene nel dettaglio. Allora, che succede? Io, a differenza dell'altro radioascoltatore, ho dovuto sempre simulare. Quello che sappiamo. Allora? Esatto, così. E dopo quando è arrivato il momento, lei mi dice: sto venendo. E io mi inchinavo e bevevo litri di squirt. Addirittura, bevevi addirittura? Sì. Luca da Reggio Emilia. Cioè, una volta la gente chiamava da Reggio Emilia, che è la patria del tricolore, per raccontare aneddoti legati magari ai partigiani, alla cacciata dei nazisti. Sono un imprenditore, abbastanza acculturato per... Ma certo, perché no? Essere, e non credo che ci sia nulla di male se uno ha una pratica sessuale che gli piace, nel senso non ho ammazzato nessuno e tutto. No, poi ma nel senso... E sono cattolico, nel senso, i bigotti come te invece, Parenzo, sembrano quasi sempre quelle persone che fanno i buoni, i muralisti, tutto quanto, poi sono i peggiori. Infatti io credo sinceramente a quei camionisti che ti hanno visto nelle piazzole di Sosa. Nelle piazzole. Io ci credo. Cosa? Non ho capito. Che l'hanno visto nelle piazzole di Sosa degli scambisti. Ma chi, Parenzo? Un camionista dice di averlo visto. Signore mio, quanto mi piacerebbe che ad esempio la sua famiglia stesse ascoltando la trasmissione stasera, quando lei alle 20:30 arriva a casa dalla mamma e dice: ciao mamma, com'è andata la giornata? Lei ti guarda con quello sguardo, come dire, so tutto, sforcaccione, ma no, ma io figlio mio, che figura mi hai fatto fare, che figura mi hai fatto fare. Assolutamente niente di male, secondo me. Ma per carità, ma certo. Nulla di male, nulla, allora, mi pare una persona cognome. Per bene. Di anche il cognome. Di cosa si sta lamentando quel bigotto moralista? Ma io non sono né bigotto né moralista, mi piacerebbe vedere la faccia dei tuoi genitori quando stasera torni a casa. Sta raccontare queste cose alla radio. Ma qual è il problema? Ma se Luca... Perché non hai quel valore dell'intimità, quel non apprezzi che queste cose è bello farle sotto le lenzuola, non davanti a una finestra. Io ho raccontato una mia esperienza, punto. Sì, ma quante altre volte si è ripetuta questa esperienza? Mai, figurati. Adesso io sono sposato con una ragazza che non ha questo tipo di dono, però quando sono stato fidanzato la prima volta 2 anni e mezzo con una prima ragazza che aveva questa cosa qua, e l'ultima volta è successo nel 2010 con una ragazza durata circa 1 anno. Addirittura, ma non ti sei appassionata a questa cosa tanto da non lasciarla più? No, no, devo dire che io vado avanti più per il sentimento che per il rapporto fisico e carnale. Però è una cosa che mi è rimasta dentro di me, è un bel ricordo, nel senso, una bella esperienza. Bravo, ciao Luca, ciao Sebastiano. Ciao. Ancora, vai, Sebastiano. Non avete più il valore, ragazzi, dell'intimità, della sessualità. Sì, volevo dire una cosa. Sì. Bartolomeo Pepe, senatore, giusto? Sì, senatore della Repubblica. Sì, purtroppo. Allora, rispetteremo la carica. Come? Rispetteremo la carica che lui ha, che è senatore. Può anche non rispettarla, qui non è che non c'è rispetto per nessuno. Ma, verso la carica, sì, va. Vabbè, ma qui non c'è rispetto per nessuno. È bella perché non è democratica. La scienza non può essere democratica. Ma qui infatti non c'è scienza, qui c'è discussione, punto. No, esattamente, c'è discussione. Qui c'è discussione, quello è un deputato, non è un, non è uno scienziato, è un deputato. No, ma lui consiglia, no? Come al supermercato. Lui consiglia, signore, buona, consiglia di non... No. Il vaccino per il, per il morbillo, sì, quello no. Quella, ma Bartolomeo Pepe guardava le scie chimiche, apriva la finestra, guardava le scie, sono nocive. La scienza è una cosa. Ho capito, ma non uccide nessuno, scienza. Non uccide nessuno. Beh, come no, è pericoloso. Esprime le sue opinioni. State dicendo Repubblica. Che è pericoloso per... Molto pericoloso, si mandano messaggi alla gente contraddittori e sbagliati. Che contraddittori? È pericoloso che Bartolomeo Pepe abbia seguito. Date troppa importanza ai senatori. 1600 casi di morbillo in Italia. Date troppa importanza. 1600 casi nel 2017, 4 Beppe, casi su 10 hanno chiesto il ricovero in ospedale, vi rendete conto? E chi se ne frega? Di qualcuno lì sopra. Va bene, ma vuol dire che qualcuno risponde anche a quello. E allora? Perché non ci può essere, non esistono, non esistono le minoranze in Italia, non esiste chi ma pensa che non esiste bene, chi pensa a qualsiasi cosa. Allora, ma chi se ne frega? Ma bene. Perché non volete lasciare la libertà alle persone di pensare certe cose? Beh, che cosa devono essere fatti? I banditi? È devono essere banditi? Allora, non no, è che assolutamente no, ma dal chirurgo qui c'è non si qualcuno, chiede qui di c'è qualcuno che si corto, no, attenzione, qui c'è qualcuno che interpreta questo ruolo, che è quello di conduttore di una trasmissione radiofonica o simili, di essere di insegnamento a qualche cosa. No, noi no, non siamo no, di insegnamento no, a uno stracazzo. Dire quando uno dice una minchiata. No, lo so, secondo te dice una minchiata. Ognuno dice la sua. No, secondo me, scusami, sul morbillo sono dei dati ufficiali, non sono dati che abbiamo detto noi. Io lascio parlare le persone, chiaro? Io le lascio parlare. Che ho fornito sul morbillo, sulla recrudescenza. Se io dico che un giorno inizia a piovere merda, certo. Tu non puoi darmi del meteorologo. Sto dicendo cazzate. Bravo, bravo, bravo. Sì, bravo. Però è un altro basta. Discorso qui. Metafora ficcante. Vabbè. Ciao amico mio, ciao, ciao, ciao. Bravo. Ciao, ciao ragazzi. Allora, vorrei chiamare quella signora che è stata attaccata da Salvini perché ospite i migranti in quella villa storica, sì, pazzesco, no? Un'aggressione pazzesca. Si chiama Carlotta, se non mi sbaglio. Sì, Carlotta Cernigliaro. La villa è Villa Cernigliaro. Sì. Pronto? Sì. Signora Carlotta? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Salve. Salve, buonasera. Senta, volevo capire come ha preso quegli attacchi che le sono venuti da Salvini sulla... su questa storia, guardi, qua. Il mio legale non mi lascia rilasciare alcuna... Che vuol dire legale? Il mio avvocato non mi lascia rilasciare alcuna dichiarazione. Stiamo vedendo quali provvedimenti prendere. Ma perché cosa? Scusa, si sente diffamata? Beh, certo. Le ripeto, non... No, ma ho capito, ma che cos'è che non le... Qual è il punto delle cose che le ha detto Salvini per cui si sente diffamata? Che punti di non verità. No, io non sono a favore di nessuno, sto cercando di capire come sono. No, io sono dalla parte della signora invece. Chi che parla insieme? No, Parenzo. Sono Parenzo, signora, buonasera. Eh? Intanto, Parenzo, signora, tutta la mia solidarietà, intanto, grazie, a prescindere grazie. Da tutto. E ciao. Chiedo, veramente mi dispiace che alcuni politici strumentalizzino non solo il suo buon cuore, ma insomma il lavoro che lei ha fatto di dare la casa alla cooperativa. Quindi grazie. Avanti, tutta, non è sola. Grazie. Noi siamo con lei, quindi solidarietà intanto. Grazie. Questo lo dici tu. Io volevo capire una cosa. Assolutamente. Signora, una cosa. Non ho capito perché volete chiamare gli avvocati per Salvini, questo non l'ho capito. Perché le sue parole contengono delle inesattezze e chiediamo anche delle scuse. Ma chiedete anche un risarcimento per qualche cosa? Non lo so, guardi, stiamo analizzando. Infatti. Io non ho capito una cosa. Lei... Noi con Carlotta, voi con Salvini. Questo è il punto centrale. Scusi, ottimo, signora Carlotta, io voglio capire. Nuova lista. Noi con Carlotta, voi con Salvini e dalla vostra parte. Noi siamo dalla nostra parte, noi con Carlotta. Una grande lista, multietnica, multinazionale. Quando lei dice, ha detto a Salvini, io non posso ospitare gli italiani gratis, per questo Salvini l'ha attaccata, no? Cosa significa? Certo, mica è la carità. Però guardi, le ripeto, non le sto dicendo sulle cose di Salvini, sto dicendo. Mi dispiace, grazie. Signora Carlotta, mi scusi, signora Carlotta? Cioè, le sto chiedendo semplicemente una cosa sul perché lei non può ospitare italiani gratis, che mi pare anche una cosa già normale. Ah, perché lei quando ospita qualcuno gratis non ha spese? Certo. No, certo, appunto. Dico. Allora. E dunque lei ha delle spese e non si può permettere di ospitare quegli italiani che glielo chiedono, giusto? Certo. E invece con gli immigrati che succede? C'è una copertura. Lei quanto guadagna da tutta questa operazione? No, guardi, non sono io che faccio l'operazione. No, la cooperativa, lo so perfettamente. Ecco, potete chiamare la cooperativa per avere tutte le informazioni. No, d'accordo, ma lei una parte di soldi li avrà indietro, no? Perché altrimenti di che parliamo? È un affitto, è un semplice affitto. Ecco, a quanto lo affitta lei una parte della villa? Guardi, mi stanno sgridando. No, però scusi signora, ma non le sto chiedendo dicendo. Ma non le sto chiedendo nulla di Salvini, sto chiedendo delle cose normali, siccome sono soldi dello Stato. No, senta, guardi, non possiamo parlarne. No, scusi, avvocato, arrivederci. Avvocato, mi perdoni, scusi, avvocato? Avvocato? Avvocato? Sì. Allora, adesso mi incazzo, Parenzo. Adesso mi incazzo perché. Ha ragione la signora. Ma no, ma lascia perdere che ha ragione la signora. Mi devono dire quanti soldi prendono. Ma non devono dire. Sono soldi né pubblici. A te, né sono a Salvini. Soldi pubblici. Vabbè, ma cosa c'entra? Che dicano senza vergognarsi quanti soldi prendono dalla cooperativa per ospitare migranti. Dicono anche che è un atto di generosità. Cioè, loro dicono anche che bisogna parte fare loro l'accoglienza. Stabile a un'organizzazione. Dicono quanti soldi prendono. Sia pubblico. Che si occupa di sia pubblico. Quanti soldi prendono? Quanti soldi prendono? Ma che cosa vuol dire? No, non possiamo. Quanti soldi che prendo? Cosa cambia? Lo voglio sapere. È un servizio che lo richiamate, Stato fa. Richiamate. No, se lo facesse lo Stato con richiamate. Le caserme dismesse, non lo fa e quindi lo Stato si affida richiamate, ai privati. Richiamate questa. Richiamate. Ma richiamate cosa fai? Stalking richiamate. Radiofonico a questa? Certo, assolutamente. Stalk radio fai? Assolutamente. Cosa fai? Bel titolo. Stalk radio a questa povera signora che andrebbe insignita del cavalierato del lavoro. Per cavalierato del lavoro sì, perché fa sì, affari sì. Con gli immigrati. Non fa affari. Vergognati. Non fa affari. Fa affari con gli immigrati. Non fa affari. Fa affari con gli immigrati. Non fa affari. Fa affari con gli immigrati. Fa affari con gli immigrati. Sei uno stalkeratore, uno molestatore di gente che lavora, peraltro. Come si chiama? Chi sei? Sei un molestatore di gente che lavora. Sei Liguori? Io ti denunzierei. Fossi della signora, denunzierei questo programma. Denunzierei questo programma. Pronto? Scusi, avvocato? No, sì, sono Cruciani, avvocato, buonasera. Non sono un avvocato, non possiamo lasciare le no, però scusi un attimo, siccome no, ma io non sto facendo nulla, io non volevo fare nulla che riguarda la vicenda di Salvini, forse non ha capito bene. No, cioè, non interessa assolutamente. No, scusi un attimo, siccome lei prende dei soldi dello Stato. No, non prendiamo niente dello Beh, Stato. Come no, dalla cooperativa prendete dei soldi, quei soldi da dove vengono? Sono soldi dello Stato, non è che sono soldi venuti dal cielo. La devo salutare. No, ma sono soldi dello Stato, ha capito o no? Pronto? Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento La Zanzara. Bastardi, andatevene a fanculo voi e la vostra integrazione di merda. Avete rovinato l'Italia, pezzi di merda. There is no need to cry. Ma questo stronzo di Parenzo, scusami, lo potrebbe capire che siccome già ce n'avemo troppi dei cazzi e dei rompimenti dei coglioni a cui dobbiamo riparare, che ce n'avemo già troppi e quindi non ce ne servono altri? Lo vuole capire o non lo vuole capire? Invece da farsi i paragoni del cazzo, vattene a fanculo Parenzo. Fai solo paragoni del cazzo. Siccome già ce n'avevamo troppi dei problemi, che ci avevamo i nostri dei problemi, non se dovevamo dannare più all'altro, hai capito? Portali nella civilissima Tel Aviv un po' dei problemi, hai capito? Arrivatene a fanculo, Parenzo. Sono Asmodeo! Cruciani, vai via! Fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there, don't you ever let me down. Days by careless words. Io non mollo, eh. Mi spieghi cosa ha fatto di male questa signora? In ottemperanza alla legge vigente ha affittato. Sì, pronto, pronto, sì. Buonasera. Sì, buonasera, allora, eccoci qua. Per me voi avete tutte le ragioni, allora, del mondo. Noi non sono vogliamo Parenzo. Chiedere nulla. Se Parenzo. Ma che... No, no, no, è Parenzo. Di che parla? No, Parenzo dice, no, dico, che voi avete ragione su tutta la linea, anzi, per me il capo dello Stato dovrebbe dargli una medaglia. Ma un attimo, sì, ma sì, sì, un attimo. Stiamo calmi. Sì, no, stiamo tranquilli. Sì, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli. Tranquilli, ma intanto si presenti. Sì, buonasera, sì, buonasera. Sì. Mi chiamo Cruciani, Radio 24. E io sono Parenzo. Qui c'è il signor Parenzo, sempre Radio 24, 24 su gruppo Sole 24 allora, ore. Parenzo, conosce Parenzo? Sì. Non lo so, non lo conosco. Non lo conosco. Sì, ma avrà visto Cruciani lo conosce, non nemmeno. No, va bene, neanche, lo stesso. Vabbè. Cruciani non lo conosco. Non lo conosce, no. Bene. Allora, Parenzo dice che voi avete ragione, certo. A affittare una parte della villa agli immigrati. No, agli immigrati, a un'associazione. Sì. Come, scusi? Ho detto sì, ma io non so dove vuole arrivare. No, io non si vuole arrivare. Volevamo... In questo momento non sono... No, mi volevamo dica. Sapere una cosa. Siccome sono soldi pubblici, diciamo, quelli che arrivano attraverso la cooperativa, certo. quanto incassate voi da questo affitto di quest'ala? Quanto di questo... incassiamo noi da quell'affitto? Sì. Adesso lo richiedo alla signora. Quanto? Che mi sta chiedendo? Ma da quale affitto? Non si sa alla cooperativa? Niente, alla quanto incasserete? Alla cooperativa. Quanto incasserete? Quanto incasserete? Ma questo non volete lo sapere? So. Io non le so rispondere, si rivolga alla cooperativa. No, ma la cooperativa darà dei soldi a voi per quella ma casa. Non, ci è mancherebbe. Avviato, non è ancora avviato un bel niente. No, d'accordo, però la cosa che vorrei sapere... notizia c'è. Aspettiamo che le cose si avvino e così saranno... Sì. Se si avvieranno, no, ma c'è stato un accordo già con la cooperativa. Non c'è, no? Nessun accordo con la cooperativa. Questa è la notizia. Se però, si avvieranno, scusi, però la signora prima ci ha detto: ci sarà stata un'offerta, ma non hanno accettato. C'è stata ancora, hanno parlato con la cooperativa. Evidentemente si erano messi d'accordo su un prezzo. Adesso guardi, io non posso rispondere a queste domande. Ma perché uno non può rispondere su una cosa? La cooperativa ci dà 2.000 euro al mese, 3.000 euro al mese per affittare quella parte di casa. Dov'è il crimine? Non sto dicendo che è un crimine, è un crimine. Giusto. Siccome sono soldi dello Stato, uno vorrebbe sapere quanto... Dire questa cosa, perché io ho capito. Certo, hai ragione. Pronto? Signora? Pronto? Pronto? Questione di forma, era questione di forma, signora, qui è Villa Cernigliano, sì. Pronto? Ma signora, sì. Buonasera, salve, buonasera. Buonasera. Signora Carlotta, sì. Buonasera. Allora, l'accordo con questa cooperativa vi darà dei quattrini? Ma è ancora lei? Sì, sono ancora io, sì, sono ancora no, io. Mi dispiace, le ho già risposto. Vi darà dei quattrini? Ma non o no, è stato fatto l'accordo ancora, abbiamo detto. Non è stato ancora formalizzato nessun accordo. Ho c'è capito, una ma questa cooperativa di... vi darà dei soldi? Una roba incredibile. Comunque il colloquio tra il marito e la signora certo. Comunque se lo palla il marito c'ha ragione. Io non so un ma cazzo. Ma quanto guadagni tu per devono fare questa dire, trasmissione? Devono ma dire quanti soldi prendono devono per ospitare dire, gli immigrati. Ma ci dicessero quanti soldi incassano. L'ha fatto ci dicessero no? quanti soldi sì, incassano. Ma non è un'associazione criminale. È una bravissima signora. Ma no, li insegui, li torturi come fosse un'associazione criminale. Ma chi li tortura? Ma che siete matti? Li torturi, li torturi. Vabbè ragazzi, non vuoi parlare di immigrazione? Parliamo di squirting. Parliamo di squirting. No, benissimo. Risentiamo tutto. C'è della gente anche risentiamo tutto. Risentiamo tutto. C'è della gente anche Anna, la mitologica Anna da a me inquieta Milano. La voce di sta signora. Tipi da zanzara, Anna da Milano. Tipi da zanzara. Anna da Milano, vai Anna, Anna, Anna. Anna. Buonasera, eccomi. Senti, io ho sentito quelle parole meravigliose che hai letto ieri sullo sì. squirting. Sì, e Emmanuel io... Carrer era lo scrittore. Emmanuel ecco. Carrer. Sì, allora. Ha detto delle verità straordinarie, straordinarie. Lei squirta, signora? Eccola. Sì, e tanto. Primo da sapere, non ha né colore, né odore, né sapore. Quando ha odore e colore... e urina, non è squirting. Ma lei ha fatto uno studio su questo, cosa signora? Dice da morire. Io ci ho messo anni a capire. Ma lei quanto squirta? Tantissimo? Che domanda è? Mica è report questo? È devo però asciugare la camera. Addirittura? Quando... deve sì. asciugare la camera. Esatto. Cioè... dei testi preliminari, non ho bisogno. Ma che cosa sono preliminari? Ma adesso i preliminari... se hai una voglia pazza di far l'amore con la persona che è con te. Ma sì, quello è vero, però alcuni vogliono fare anche la radio. Alcuni ma dopo, vogliono... dopo li facciamo dopo. Li vabbè, adesso prima dopo, adesso non sarà quello il problema. Ma voglio capire cosa succede dal punto di vista della cosiddetta inondazione. Ecco, quello inondazione che... appena la persona che io adoro, che amo, sì. mi sfiora, sì. io raggiungo l'orgasmo. Anche solo con un bacio. Ah, dottore Bloody Mary, subito Bloody Mary per il dottore, dottore Bloody Mary, pronto! Immagini quando a uno viene voglia di andare in camporella. Ah. Dottore, taltile, salmone, allivante, dottore! Le radio non vanno più. Cioè, in che senso? Non ho capito. Talmente si allaga tutto che anche gli impianti elettrici saltano. Cioè, ma voglio dire, la dottore, stanza... è caduto, Maltini, ha allagato tutto, dottore! È caduto, Maltini, ha allagato! No, radio. Non fare ridere Anna, che è seria in queste cose qua. No, Anna sta ridendo. Serissima. È serissima. Cioè, tu allaghi la camera completamente? Sì, e poi asciuga. Immobili, ma c'è un getto in un'ora d'amore, non so, in un'ora che succede? Volte. È una radio economica sì. questa. Lei viene 30 volte, questa è una produzione fordista. E squirto sempre. I rapporti anali, tutte quelle stupidaggini che dite. Cioè? È una cosa fantastica, è bellissima. Cioè, la signora De Mari, la signora De Mari ha torto, cioè non c'è nessun trauma rettale. Nessun diciamo. Trauma, nessun trauma. Anzi, un godimento straordinario. E tu squirti ancora di più. Eh sì. Tipi da zanzara. Amici miei, uno dei momenti top di questa trasmissione, di questa stagione, caro Parenzo, devo dire la verità, c'è una notizia oggi importante, che è quella della Russia, con la Corte Suprema, che ha messo al bando i testimoni di Geova, perché dice che sono estremisti. Mi voglio interessare di questa vicenda. Bravo. Perché hai visto mai avessero ragione i russi? Su ecco questa là. Cosa qua no hai visto mai cioè mi pongo una domanda forse hanno ragione i russi forse non cioè, lo so voglio analizzare bene un credo secolare allora i giudici questo hanno vietato l'attività che ti hanno fatto adesso perché devi dichiarare guerra anche ai testimoni di Geova io non ho capito aspetta ho detto voglio studiare la questione ma cosa ho detto voglio studiare la questione. La questione ma che cosa studi l'accusa la è di essere un'organizzazione religiosa estremista ma pensa te che vergogna io conosco un sacco di testimoni di Geova gente bravissima gente per bene, anzi peraltro oggi devo anche chiedere scusa perché mi è arrivata una lettera, cosa? Ero a Omnibus stamattina sì. e siccome ho detto che in America c'è l'accesso a tutte le università, l'obbligo di vaccinarsi all'interno delle scuole esiste, altrimenti non ti prendono il bambino. E Peter Gomez mi ha detto no, perché non è vero, in realtà ci sono tutte le esenzioni religiose. Io erroneamente ho detto sì, testimoni di Geova. Mi ha scritto oggi alla redazione della Zanzara la signora Ivana. Buongiorno Parenzo, vorrei fare una correzione a quanto detto lei alla trasmissione Omnibus. Lei ha affermato che i testimoni di Geova rifiutano le vaccinazioni. Questo non è assolutamente vero, infatti io ho fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge. Perché hai detto una cazzata in pratica. Esattamente. Quindi chiedo scusa ai testimoni di Geova. Ma chi se ne frega, vai a Omnibus a dirlo, chi se ne frega. No, ho usato questo per fare ho usato Radio 24 per fare una rettifica su una cosa detta Omnibus. Esatto, perfetto, esattamente, proprio così è andato. Va bene, Salvatore. Dopodiché chiedo scusa per quello che stai dicendo tu adesso invece. Ma non ho detto niente, ho detto voglio capire perché. E io spero che i testimoni di Geova chiamino tutti in massa, bloccando i centralini della radio per una settimana. Testimoni di Geova, chiamate solo voi, raccontateci della vostra religione, del vostro, chiamate solo voi. Io sto invadete, forse invadete l'800 in Russia, forse hanno fatto una cosa giusta, no. Punto, interrogativo, punto interrogativo. Mamma mia, ma hanno messo fuori legge i testimoni di Geova perché sono estremisti. Voglio capire perché, non è che sono impazziti all'improvviso i russi. Salvatore da Genova, sono impazziti i russi, sono impazziti, è una dittatura. Ma quale dittatura, no. Dai, è una liberal democrazia. A parte che è la Corte Suprema che l'ha fatto. Salvatore, vai. Appunto, di chi è la Corte Suprema nominata da Putin, i giudici, dai. Dimmi. No, scusa, io volevo chiamare perché sono un medico e sentire ieri quello che parlava degli antibiotici delle multinazionali che premono, sono 20 anni che non c'è un nuovo antibiotico, questo è uno dei problemi. Il problema vero dell'antibiotico è che è usato in maniera inappropriata, quindi si sono create delle resistenze, ma non c'è. Vabbè, non facciamo un convegno qua, Salvatore, che vuol no, dire? Non è un convegno, però questo qui ha detto una cazzata. Chi ha detto una cazzata? Chi? Quello di ieri che diceva. Quello di ieri, ce lo siamo dimenticati. Lei dice, correggendolo, che non si fanno nuovi antibiotici da un sacco di tempo. Benissimo, andiamo avanti. Poi quello di stasera dei vaccini, un altro folle che dice delle cose. Pepe, cosa ha detto di folle secondo te? Beh, ha detto del problema dei vaccini, che è meglio mettere in stanza un bambino col morbillo insieme a tutti gli altri, ma è incredibile, cioè i vaccini da sempre. E poi altra cazzata secondo te che ha detto? Ma tutta la filosofia che c'è dietro a questo, cioè il fatto che bisogna vaccinarli a 3 anni e non all'inizio, una cazzata pure quella? Assolutamente sì, assolutamente. Una follia pericolosa, va cacciato dal Senato secondo te? Lei che è medico? Non sarebbe una cosa malvagia, non nessuno. Cioè indegno di essere senatore? Ma sì, uno che va a dire quelle cose lì, che ha anche un ruolo istituzionale, cioè ha un minimo di documentazione, un minimo di conoscenza. Se non ce l'ha, che non ne parli. Va bene, grazie, grazie. Di nulla, arrivederci. Ciao. Cruciani, vai a fanculo, sei un gran pezzo di cazzo, sei un bastardo dentro, sei un cretino, bastardo razzista che merda, adesso ormai sei pronto a fare il vice di Salvini alla Lega Nord. Che cazzo vuoi, bastardo, che sei altro? Sei cruciani. Vai, spada di fuoco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Amici miei, io quando sento la Lores inveire contro quel froce ebreo di merda e coglione di Parenzo, io godo, mi sale l'adrenalina che mi va a far produrre più testosterone e mi ingrifo perché mi sale la carica dell'odio e la carica dell'eros, del sesso, perché la Lores ha una voce strafiga. La Lores è una creatura da sesso intenso, non da frocio come te, coglione! Coglione Parenzo, che cazzo hai da dire con la Lores? Che è una grande donna, è la numero uno delle interventiste femmine alla Zanzara, la numero uno. Poi subito c'è la escort di Udine e poi l'altra toscana, che sei una merdaccia, un coglione, asino somaro che non è laureato, coglione! perché è così scatenato il signor Mauro Damanto? Perché? Perché purtroppo il sistema sanitario nazionale non riesce a raggiungere tutti proprio, no? E quindi alle volte viene rimesso libero, viene rilasciato libero, come dire, no? Viene ridato alla famiglia e quindi... Così. Oh, coglione, c'è la sua sorella! Vaffa al culo! Signor Mauro Damanto, ma signor Mauro Damanto. Cosa terribile, che hai creato dei mostri pazzeschi. Allora, so che c'è anche tutta una comunità di chat che si telefonano, si scrivono tra tutto il giorno. È normale, no, ma senti questa cosa. Ciao, sono Costantino. Cioè, la gente è incredibile. Sono Costantino. Mio padre mi ha detto che parla. Mio padre, non so se è vera questa cosa. Dove mi ha detto, sulla 393-71-71-701, il solito telefono. SMS. Ciao, sono Costantino. Mio padre mi ha detto che parlate spesso di squirting, sì, e vorrei raccontare, raccontare la mia esperienza con una ragazza con una ragazza che inondava la camera. Allora io non so se gliel'ho raccontato. Si moltiplicano i casi, no? Come quando c'è vabbè. Dov'è sto messaggio? L'ho perso adesso, maledizione. Cruciale, dimmi cos'è Spring. Un'altra prostituta sarebbe. Allora sentiamo un pezzo di Pepe molto interessante, sulla Corea del Nord. Un pezzettino di Pepe sulla Corea del Nord. Qualche secondo, pochi secondi, Pepe. Kim non è un dittatore, ma viene visto come il padre spirituale, se vuoi, che l'ha liberato sia prima dai giapponesi e poi dagli americani, e quindi c'è quasi una venerazione. Quindi è un po' come il garante, un po' come la regina d'Inghilterra degli inglesi. Poi in effetti c'è il partito, c'è una struttura, ci sono le elezioni, quindi... C'è il partito, c'è una struttura, ci sono le elezioni. La Corea del Nord, caro Parenzo, la Corea del Nord. Salvini contro le ONG. Salvini contro le ONG. Salvatore da Modena, vai, Salvatore. Era. Senti. Sì, dimmi Salvatore, dimmi. Volevo parlare della ormai che è passata la Pasqua, volevo parlare degli agnelli, volevo parlarti di un paio di situazioni. Che vuoi fare? È passata la Pasqua, che devi fare? No, ma il problema è che non riesco a capire quei razzi vegani, la gente vegana che insiste, cioè non mi fa paura tanto che loro non mangiano carne e che vogliono imporre di non mangiare carne, forse l'avrai ribadito tu questo concetto sicuramente. Volevo raccontarti la situazione, cioè io premetto, io mangio la carne, ho visto trucidare agnelli. Cioè, in tutti i sensi, sia dall'uomo, mio padre era un allevatore da piccolino, 5-6 anni. Ma fatto tu hai ucciso degli agnelli? Mai, non ho avuto mai il coraggio. Io ne ho visto uccidere a migliaia. Una volta per una festa sono ritornato da Modena, sono tornato in Sicilia, mio padre ha fatto trovare una pecora giovane. Sì, sì. Destinata a quel destino, io capisco, io mangio la carne, ti dico. Allora, qual è il problema? Non ho capito. Tuo padre era allevatore, ha ammazzato migliaia di agnelli. Tu non hai il coraggio di ammazzarli. Che fai tu? Di mestiere, che fai? Adesso faccio il curatore estetico per esterni. Che fai? Curatore estetico per esterni. Che cazzo vuol dire curatore estetico giardiniere. Per esterni? Il giardiniere. Ah, vabbè, giardiniere. Basta lì, giardiniere, curatore estetico per esterni. No, ma che roba è? Mia figlia è una ragazza che va al liceo e quando io ho cambiato lavoro dopo 20 anni di fare edilizia, mi ha detto papà, prima facevi edilizia, oggi fai curatore estetico per esterni. Fai il giardiniere, basta con queste puttanate, fai il giardiniere. Dipende come si fa, aspetta. Fai il giardiniere, non il curatore estetico per gli esterni, ma che sei, il giardiniere fighetto, non ho capito. Sì, un cazzo. Da sole, sì. Ma che vuol dire? Perché i giardinieri normali che sono più sfigati di te, non ho capito. Ma non ho detto che la gente è sfigata, ho detto ogni lavoro e come va fatto. Ma passione, non è il curatore estetico per l'esterno, fai il giardiniere, punto. Ho detto io giardiniere, era una battuta per drammatizzare, dai. Vabbè, dove comunque tu ci hai chiamato per gli agnelli, io figurati. Ma non ho capito, Salvatore, scusa. Salvatore il giardiniere, ha chiamato dicendo che il padre ha ammazzato migliaia di agnelli e che lui invece... Faceva l'allevatore... nel periodo non aveva neanche delle pecore da riproduzione, ma delle pecore da latte. E dunque volevo portare la mia testimonianza a dirti che questa cosa qua dei vegani a me non piace, perché d'accordo che loro non vogliono mangiare la carne, ma non posso imporre alla gente di non mangiare. Bravo, grazie. Per Luigi Berlino, vai. Per Luigi, pronto? Dimmi, per Luigi, dimmi. Per Luigi, pronto, buonasera. Parenzo, io Cristiano, io sono d'accordo con lei su molte cose, specialmente sull'Unione Europea, perché l'Unione Europea è sorretta dalle corporazioni finanziarie, e così sono come sorrette queste ultime guerre che si vogliono fare contro la Siria Sì, però amico mio, adesso non ci, non ho capito il non ci venire a scassare la minchia. Lei voleva chiamare forse un numero per denunciare la sua insanità mentale? Non alle 20:41, no, no, Pierluigi, alle 20:41, tu da Berlino ci chiami per dire che l'Unione Europea è sorretta, lo so che sei stato lì un po' di tempo, è sorretta dalle corporazioni finanziarie. Ma quale corporazione? Adesso, esatto, va bene, d'accordo. Esatto. C'è l'Unione Europea, la longa manus. È una cosa buona, no, io vorrei parlare col signor Parenzo. L'Unione Europea è una cosa buona, perché l'unione dei popoli buona. Va bene, allora... I popoli possono essere solo uniti quando l'evoluzione dei popoli porteranno ogni popolo una nazione. Ogni popolo mi hai già rotto il cazzo. Dopo un minuto mi hai rotto i coglioni con questa discussione. È vero che abiti a Berlino? Respiri un altro odore, un'altra aria. Mi hai già rotto i coglioni. Com'è che hai detto? Ah, comunque il vostro inglese fa schifo. Comunque, quando ti ha chiamato Farage, porca puttana. Sì, ma è Farage. Non è Pierluigi da Berlino che mi spiega le corporazioni finanziarie. Farage è un signore, fa un programma alla radio in Inghilterra, fa ammazzare delle risate, è un numero uno della comunicazione. Tu ci hai fatto due palle così già. Sì, ma non mi interessa. Ma tu ci hai fatto due coglioni così già. In due minuti ci hai fatto due palle così. Ma che cazzo ti posso fare, Dimmi qualcosa in tedesco, ti prego. Che vuol dire? Cosa vuoi sentire, amico? Dimmi che vuol dire, come si dice culone inchiavabile. Questo non lo so perché. Dimmi come si chiama. No, amico mio. Come si dice culona inchiavabile? Fondamentale. Un fick fat ash. Non ho capito un cazzo, ripetilo. Un fick fat ash inchiavabile. Sì. Fat ash. Culona. Bravo Pierluigi, grazie. Ciao. A me quelli che fanno i sapientoni mi fanno incazzare. I sapientoni. Allora chiamiamo questo Ferrazzo che c'ha questa tabaccheria. Dov'è? Jesolo, bravo. Questo che ha. No, che ha subito un'aggressione da parte di alcuni presunti israeliani, presunti ebrei, che hanno visto un accendino con la faccia di Hitler e di Mussolini, hanno distrutto, hanno fatto un po' di casino in quel locale. Ferrazzo, vai. Contro seconda. Sì, salve, Ferrazzo? Sì, prego. Sì, salve, Cruciani, Radio 24. E Parenzo. Buongiorno. Come stai? Tutto a posto. Senti, scusami Riccardo, ma mi puoi raccontare quello che è successo? Praticamente, sì, l'altra sera sono entrate queste 5 persone che molto probabilmente sapevano già di questo articolo che vedevamo, perché sono entrati proprio così, direttamente. Sì. Ne hanno acquistato uno e subito dopo mi hanno detto come mai vendiamo questi articoli. Gli ho chiesto, siccome vedevo che erano tipo dei turisti, gli ho detto guarda che se è la prima volta che vieni in Italia, comunque è legale la vendita di questi articoli. Ma tu hai degli accendini con le foto di Hitler? Di Mussolini, di Che Guevara, di Stalin, di Ceausescu. Cioè non hai solo quelle di destra? No, di tutti i tipi, anche altri gadget, tipo le bottiglie di vino e queste cose qua. Sì, sì. Solo che loro si erano focalizzati proprio su quello là di Hitler, Mussolini, Hitler in particolare. Sì. E dopo mi hanno detto perché li vendo, dopo siccome erano molto nervosi ho detto guarda io lavoro qua, alla fine non ho deciso io di tenerli. Sì. E appunto però loro non volevano aver ragione, li hanno rotti, li hanno pestati, tipo come quelli, i fanatici che vedi per televisione che sventolano le bandiere dell'ISIS, questa cosa. Addirittura? Beh, direi un po' diverso. Erano proprio molto... Cioè ma erano israeliani, erano ebrei, cos'erano? Allora loro mi hanno detto che erano israeliani. Vabbè. Sì. Ma parlavano, che parlavano inglese? Francese, arabi forse erano. Ma che parlavano, inglese, francese? Inglese arabi. Con accento francese. Vabbè, comunque ti hanno minacciato. Arabi, cosa hanno fatto? Israeliani è diverso. Sì, mi hanno minacciato che appunto con quegli accendini avrebbero dato fuoco al locale, che sarebbero ritornati. Dopo io nel frattempo ero comunque in linea con la polizia. Ma tu perché tieni gli accendini con l'immagine? Ecco appunto, questa è la cosa principale da capire. È un prodotto comunque che si vende e appunto sia che sia appunto di Che Guevara, di Hitler, Mussolini. Beh no, è un po' diverso però. Teniamo, ecco. No, è uguale, questo è uguale. No, è uguale manco per niente, cioè comunque io se avessi un locale pubblico non eviterei di vendere dei prodotti che sono, come dire. Ma perché? Scusa, non ho capito. Come perché? Adesso cosa, come, perché domanda è perché fuoco, accendino, Hitler, cioè capisci bene che magari uno, sì, che ha una sensibilità, solo i gadget, questo mi domando io, poi per abbiamo carità anche le bottiglie di vino per esempio, ecco, bravi, ma benissimo, anche l'olio, ma non... mettete olio di ricino, olio extravergine di ricino Mussolini e vendete pure quello, allora non lo so, vendete del filo spinato, allora anche filo spinato, ma che c'entra, dai, fil di come che c'entra, diciamo, fil di ferro spinato, vendete una bombola di gas, mettete comunque la foto di Hitler e vendete una bombola del gas, allora ma... è una porcheria, il commerciante se ha un'etica può scegliere, Marte, su cosa fare i soldi. Scusa, e su cosa non farli, a te non te ne frega, no? Niente che ci sia Hitler là sopra? Sinceramente è un prodotto che comunque si tiene, cioè tira, c'è prodotto tira di vendita, quindi perché vietarlo? Ma tu ma tira questo gadget, cioè tira questo accendino? Piace, anche perché comunque siamo a Jesolo, su una località turistica, quindi molti turisti, pieno di tedeschi, poi acquistano. Quello che si vende di più qual è? Hitler e Mussolini. Hitler e Mussolini. Parenzo, fattene una ragione. Non è che sono contento. Fattene una ragione del fatto che c'è, no, che c'è un signore che può vendere i gadget. Non succede niente. Io dico semplicemente: hanno fatto bene quelli là, quelli israeliani. Hanno fatto là. Bene, hanno fatto bene. Sono fatto. Hanno buttato, cosa fatto? Hanno buttato in terra due accendini, dai, di Mussolini. Non ma si che era buttato? No, non è proprio andata così. Vabbè, insomma, d'accordo. Condanniamo. L'aggressione, va bene. Che danni hai subito? Hanno spaccato degli accendini, va bene, hanno preso il numero di targa, hanno rotto gli accendini. Il danno economico è molto basso, è intorno ai 20-30 euro. Non ecco, guarda, glieli do io, 20-30 euro, glieli do, glieli faccio, mi... che... Mi dia Liban. Comunque disponibile a dialogare con loro. Sì. Ma dialogare, ma se tu, ho capito, però adesso non c'entra dialogare. Se un commerciante decide di fare i soldi su quella roba là, cioè sulle effigi di Mussolini. Ma qual è il problema? Che per migliaia di persone. Per te dovrebbe essere proibito? Per te dovrebbe essere proibito? Ma certamente. Ma c'è una roba... Stalin, che perché Stalin sì e Hitler no e Mussolini no? Ma non è la stessa cosa. È alta, eh? Sì, Stalin, stava allora, d'accordo. Stalin è un assassino. Vuoi che ti legga quante persone ha fatto morire Stalin? Ma sì, ma siamo, non è una questione della conta dei morti. Ma infatti, giustamente anche Stalin, dice Riccardo, che stavi dicendo prima, ha fatto che forse loro hanno fatto addirittura più morti di quel personaggio. Una conta dei morti, 6 milioni di Hitler. Ma vendi del filo spinato, allora. Ma insisti, vendi del filo ancora, spinato, insisti, forza, ma quello vende l'accendino. Quello che più grave. No, più grave l'accendino che il fuoco Hitler. Però non è dai, male il filo spinato con scritta Hitler. Vende il filo spinato, vedi il filo spinato che si vede dalle ferramenta, no? Dalle ferramenta. Vedi il filo spinato made in Adolf. Vai, avanti. Fatelo, se va ragazzi, bene tutto. La bombola del gas. Fate la bombola del gas. Sono proprio qua in tabaccheria, vi mando un grande abbraccio. Ciao, ciao. No, io ciao. No. Vado a piacere parlare con voi. Parenza no, non è reciproco, ma non importa. Ciao. Se vuole 20 euro, le porto 20 euro. Tieni duro. Attento, perché i turisti tedeschi sono molto sensibili a questa roba. Perché in Germania non sarebbe permessa una puttanata simile. Ciao. No! Esther da Milano, comunque c'ha ragione il venditore di accendini di Hitler. Ma ragazzi, ma perché andate a rompere i coglioni a uno che vende degli accendini? Dai, su, c'è l'immagine di Hitler e pazienza, dai, sì, su, pazienza. Esther Milano, vai. Esther. Scusi, dimmi. Che lei fa il processo in diretta alle persone, se fanno i contratti per emigrati, no? E non sa nemmeno da che parte vengono i soldi. Allora per una persona, un genio come lei, che parla solo di culi e la gente per bene è l'Italia. Brava, allora i soldi non vanno a prendere, è meglio che glieli danno alla gente che ha fame. Ha capito? Lei deve vergognarsi. Aspetta. Buonasera. Non ho capito. Esther, richiamami questa stronza, dai, richiamami questa vecchia maledetta. Signor... Cosa hai detto? Vecchia una maledetta. Signora veramente per bene, ma che ha posto un tema questa, che dobbiamo riprendere domani. Una ma che signora richiamatemi straordinaria. Questa vecchiaccia. Ma cosa, come ti permetti di dire schifosa, così? Vecchia, signora, con tutto rispetto per i signora, vecchi. Signora educata, garbata, che non vuole porcherie. Educata, garbata. Sì, garbatissima. Educata, garbata. Elegante. Richiamatemi questa qua, dai. Mamma mia. Chiudi la baracca, dai. Aspetta, voglio richiamare questa prima di chiudere. Siete la musichetta sotto, chiudi la baracca. Aspetta, ecco qua, fermi. Poveretta, c'ha ragione la signora. Ok, adesso vi dico come la sto. C'ha perfettamente ragione, poverino. Speriamo non ti risponda mai più, guarda. Pronto? Signora cara, non accetti provocazioni da quel miserabile, io non brava. Io sono questa, gliela dico quel signore lì. Sì, lo so, che lo so, signora. La trasmissione sì. Può essere anche allegro so. Così, ma uno schifo così. Fa schifo, in lo più, so. In più, fa schifo, Cruciani, ha ragione. Gente in tasca prima che sa le cose brava, e poi brava i processi, Esther, brava. Che va a nascondere. Ma grazie lei ha squirtato, per aver chiamato. Lei ha mai squirtato in vita sua? Ma cosa vuoi dire sta roba la signora? Ma cosa vuoi che sappia la signora? Esther! Esther, cazzo! Domani ti giuro la perseguito questa no, qua. Ti poverina. Giuro la grazie perseguito. Grazie per aver chiamato. Ti giuro grazie. La perseguito. Grazie. Quanto è vero? Grazie. Quanto è vero il telecomando che ho davanti qui adesso? Questa ti no, giuro la perseguito Esther, fino per alla bene. Fine. La deve cambiare numero di telefono. Sarà costretta a cambiare numero di telefono. Esther da Milano, maledetta vecchia. No, ma come? Co? Maledetta. Ma dai, fai schifo. Sei vecchia, magari è giovane. Ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Beppe, porca puttana. No! Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.